Sfortunati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Noi non molliamo, noi siamo l'Italia, noi non siamo nati per perdere. Occhio malocchio, prezzemolo e finocchio, e come battizzo contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di insalata mi protegge la Madonna dell'ingoroneta. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto. Italia-Uruguay 0-0, 6 minuti e 4 secondi, le voci di Radio 24, abbiamo ammazzato la zanzara oggi, torna domani, ma la zanzara è qui, Giuseppe Cruciani, ciao. Eccoci, buonasera, buonasera. Poi la voce economia che ha appena finito di parlare, Sebastiano Barisoni, eccolo là. Avete ammazzato anche un po' di focus economia. Abbiamo ammazzato un po' di focus economia. Diciamo la verità che se va male, parliamo di economia e di noi politica. Non verremo mai più a tutti convocati. No, questo è un ricatto però. Ma chiudiamo anche il programma a sto punto. Comunque vai Carlo con la cronaca. No, c'è Giovanni Capuano anche. Ciao Carlo. Compagno di banco al solito. Allora, formazioni annunciate, sapevamo tutto, lo sapevamo dall'altro ieri quando le spie dei vari giornali avevano bucato la rete protettiva di Prandelli, e già da due giorni, cosa mai successa forse ad un mondiale, sapevamo che avrebbe giocato questa formazione. Sì. Adesso c'è una punizione per l'Uruguay, batte Suarez dalla sinistra, respinge Buffon di pugno. Restano in attacco gli uruguaiani, un rimpallo su Gargano, mischia gigantesca in area, batti e ribatti, Buffon blocca, si ricomincia da qui. Fino adesso qualche fallo di troppo degli uruguaiani, su Suarez. Su Suarez l'hanno battezzato, l'hanno preso di mira, un paio di falli di Chiellini, uno di Chiellini, un altro non di mi ricordo Barzagli. Di Barzagli, bravo Giovanni. Abbiamo iniziato in maniera molto dura nei confronti degli uruguaiani, secondo me. Ma anche gli uruguaiani hanno iniziato non con le carezze nei confronti degli italiani. 8-0-0-24-0-0-24, siete tutti convocati questa sera fino alle 21, vi prego, state con noi a vivere questa partita. Brasile, Pierluigi Pardo, ciao. Come va? Pier. Pardo, non ti si sente. Tu come va? Come non mi si sente? Dai, mi senti? No. Ottimo, si sente benissimo, ottimo. Qui oggi accogliamo tutti, pure dirigenti del Sole 24 Ore vengono qui, dirigenti del Sole 24 Ore. Tragica. Lo so, i potenti mezzi. Come ha chiuso il Mittel? Non era tagliata nessuno, Parisoni no, ma noi. No, ma meno 0,30, ma non mi rompere le scatole in questo momento, Pardo, sul Mittel, che sarebbe il Fuzzi Mib. Dammi una previsione sulla partita. Subito umiliato, hai ragione. Che previsioni ti devo dare? Qua fra scaramanzie e invece un atteggiamento più cartesiano, non lo so, abbiamo iniziato con durezza. Con durezza, segno, sì. Secondo me. No, è un buon segno questo, però poi insomma non so se basterà. Intanto Chiellini palla verso Marchisio, Pirlo, dobbiamo anche capire con quanti secondi di ritardo siete. No, va bene, perfetto. Va bene. Vai tranquillo, non ti preoccupare. Massimo, stacchiamo la linea, vai. Mi dà per il cross, il ciglio profondo sul secondo palo, molto lungo, Alvaro Pereira lo battezza male, e infatti poi alla fine termina per un attimo, Alvaro Pereira va in chiusura, sarà rimessa laterale per l'Italia, quando ci sono 8 minuti e 59 secondi sul cronometro. A te Cruciani, mica! Sì, praticamente no. il ritardo di 8 minuti di ritardo. Non te l'abbiamo detto, ma praticamente ci togli qualsiasi gusto di vedere la partita, perché c'è un ritardo colossale. Fai la radiocronaca in ritardo, tieni una decina di secondi di ritardo e sei perfetto. E sei perfetto. In caso sì, in caso di gol esulta con 10 secondi di ritardo. Senti, ma io voglio sapere una cosa, Pierluigi. Immobile in area, eh? Non ve lo dico, però è finita male. Palla passata via per Suarez. No, ma non si può vedere una partita con 10 secondi di anticipo da parte di Pardo. Che volete fare? È una sofferenza. Pierluigi, ma qual è? Beh, però raccontaci una cosa adesso che mi sembra che la palla sia lontana, a meno che non ci sia già stato un gol. Ma qual è il, come dire, l'umore lì in tribuna stampa lì a Natal? Qual è l'umore dei colleghi, l'umore della stampa? C'è pessimismo, c'è ottimismo, c'è preoccupazione, che c'è? Dimmi. C'è discreta preoccupazione, perché insomma i segnali anche psicologici dei giorni scorsi non sono stati fantastici, però insomma vediamo, dai, adesso c'è abbastanza fiducia secondo me su questa formazione, un po' di preoccupazione invece dal punto di vista psicologico ambientale. Vi informo che tra qualche minuto vedrete una posizione di Pirlo. Senti, c'è qualche tuo collega Pier che ha twittato che Buffon zoppicava, è vero? Perché tra qualche minuto arriva una posizione di Pirlo, ve lo dico. Ci prepariamo. C'è qualche tuo collega che ha twittato di un infortunio di Buffon che zoppicava durante il riscaldamento? Hai visto qualcosa, sì. È vero? No, l'ho twittato anch'io, ha fatto un movimento abbastanza innaturale, ha tracciato per Ines Chirigu e aveva insomma una camminata strana come canterebbe Baglioni, però insomma mi sembra fino a questo momento abbastanza in controllo. Lo sto guardando adesso con la coda dell'occhio, mi sembra la camminata di sempre, poi insomma non credo che sia talmente sprovveduto sia Brandelli che lui da rischiare se non è in condizione. Ma su questo possiamo aprire un dibattito, eh? Su questo possiamo aprire un dibattito, perché ad esempio c'è Cruciani che dice questa formazione è pazzesca, è totalmente inventata, innaturale rispetto a come abbiamo aperto e progettato il mondiale. Balotelli sulla sinistra viene messo giù, non è la prima volta. Tu dicevi di Suarez, però anche su Balotelli gli uruguaiani non stanno usando i guanti bianchi. Niente di particolare. Particolare, ma lo pesto. Beh, siete muto un po'. Io parlavo di una formazione naturale, nel senso di una formazione figlia della confusione. Figlia della confusione di Prandelli, confusione evidente di Prandelli, Pirlo, perché non si capisce il motivo per cui Bonucci, titolare nella Juventus, squadra campione d'Italia, titolare fino a qualche settimana prima del mondiale, sia stato sacrificato, comunque non abbia giocato per due partite e poi viene riscoperto titolare adesso. Comunque punizione di Pirlo dalla destra, il tiro in porta, Muslera con un intervento da Muslera, cioè tutt'altro che sicuro in quell'intervento, non riesce il corner per l'Italia, non riesce a trattenere la palla. Cambiare canale, perché veramente avete un ritardo che è una roba non ha confini, ve lo dico con affetto, dico che sta qui ma tu sai com'è qui, no? Io ho una televisione che non ha granché ritardo. Attenzione Marchisio al limite dell'area ed è Cavani a portare via la minaccia da quel centro area, c'è un intervento dell'arbitro, si riparte con una punizione dell'Uruguay. Tra un po' vedono tutto questo anche i miei tre compagni di viaggio. Saluto anche Dario Ricci, sempre dal Brasile. Ciao Dario. Eccoci qua dalle tribune di Natal, un saluto a tutti, buon dia, buon inizio dell'Italia che a ritmi bassi sta provando a spegnere gli ardori degli uruguaggi. Pirlo, gran signore del centrocampo, detta il ritmo, finora hanno provato a disturbarlo Cavani e Suarez anche in fase difensiva, raddoppiando su di lui, ma mi sembra che ci stiamo disimpegnando piuttosto bene in fase di palleggio. Lo chiedo direi anche, Carlo, se sei d'accordo, a Giovanni Di Mossi del secolo XIX che è qui a fianco, intanto il lancio in profondità di Chiellini chiude Godin. Giovanni, direi dopo un po' di apprensioni nei primi istanti l'Italia che ha preso un po' il controllo del palleggio, a Tocchio però che tanto adesso c'è Cavani, interviene Pirlo e recupera il pallone. Sì, mi sembra che però l'Uruguay sia partito con più voglia, ancora con più forza, subito una partita per uomini veri, anche troppo veri, abbiamo visto un paio di interventi decisi, prima su Cavani e poi su Suarez, Barzagli e Chiellini, dall'altra parte ha subito risposto Gonzalez con una gomitata, gioco con l'inferno su Chiellini, insomma una partita vera, si decide tutti in 90 minuti, mi sembra che per il momento l'equilibrio sia rispettato, ma è quello che ci si attendeva. Quello che ci si attendeva, così come la superiorità anche della torcida uruguagia, più numerosa e più organizzata, direi che per ora la partita del tifo l'hanno vinta loro. Ecco, Dario, mi senti? Sì, ti sento. Ecco, le condizioni climatiche, perché molto si è discusso in questi giorni di umidità, com'è la temperatura e l'umidità soprattutto? Guarda, una giornata del tutto particolare, più a Natale, perché temperatura direi mite, cielo coperto e non c'è neppure quel vento molto forte tipo il maestrale sardo, per farci capire, sì, che soffia abitualmente, qui la chiamano brisa, ma è tutt'altro che una brezzolina, è molto forte e chiaramente unita al caldo crea altri problemi. Oggi giornata peculiare perché c'è è nuvoloso, non c'è particolare afa, si direi che si può giocare perfettamente, sì, a quindi, anche a quest'ora. Ecco, la variabile meteorologica non è variabile, vedo però un Balotelli, vai Carlo. No, Balotelli con un pallone sulla destra, sulla sinistra, lungo per il suo scatto, però ragazzi, per favore, non diciamo il clima incide, l'abbiamo detto troppe volte, una Costa Rica stupidaggine. Esatto, no, non, per dire no, appunto no, che... no, no, no, ma è corretto, ma non deve che sia chiaro, non ci venga a raccontare domani, se le cose andranno bene, che non stavamo bene, che il clima era quello, perché il grosso punto interrogativo su questa nazionale, anzi lo chiedo anche agli ascoltatori, 800 24 0024, se volete intervenire e vivere la partita con noi siete tutti invitati, anzi tutti convocati. Bene, il grande punto interrogativo è che l'Italia era impresentabile contro la Costa Rica, era impresentabile dal punto di vista fisico. Allora ci hanno raccontato un sacco di cose, dalle casette di Coverciano ai metodi, certo, avveniristici. Andiamo lì, giochiamo 20 minuti e poi ci ammazzano dal punto di vista fisico. Adesso voglio vedere, mi sembra una partita anche da, beh, fino a, ci mancherebbe, 15 minuti 47, se non fossero più in campo già adesso, possiamo darla, sì, su. Che era quello che era successo con la Costa Rica, esatto. Peggio di come abbiamo iniziato 5 giorni fa con la Costa Rica, era difficile fare. Non sto vedendo una brutta Italia però, Intanto ha avuto una visione prima, Blatter, è il portaiella per l'Italia. Se c'è Blatter non promette niente di buono. Vabbè, allora sentiamo il traffico, poi torniamo subito. 800 24 0024, 16 20 secondi, 00 Italia Uruguay. C'è il traffico, come diceva quel famoso spot, non si interrompe così un'emozione, hai capito? Un inserimento di Darmian leggermente lunga la palla. Cáceres. Se possibile, ce la facciamo a far sentire la TV? Faremo dopo. 17:23, Italia 0, Uruguay 0. Giuseppe Cruciani, Sebastiano Marisoni, Inghilterra era 0-0, adesso vediamo, fammi cambiare canale, te lo dico subito. Vabbè, sembriamo in diretta a casa mia più che la della 24, comunque va bene uguale. 0-0, 17:42 secondi, ma tanto, perfetto, conta poco. Ma che conta poco? Ma conta poco, conta, dai, sempre. Giuseppe, non c'è. Oggi secondo me Costa Rica perde contro l'Inghilterra. Guarda, vuoi sapere le mie scommesse? Allora, io ho giocato, sentiamo, 50 ecco, euro, perfetto, 50 euro. Lo sbracamento totale, vai. Okay, di che dobbiamo parlare, ragazzi? Un'ora e mezza di partita. 50 euro, 50 su 2-1 per l'Uruguay, ve lo dico subito, 2-1 per l'Uruguay e 3-1 per l'Inghilterra sulla Costa Rica. Però questo fatto che noi siamo in ritardo di 10 secondi col Brasile, potremmo anche sfruttarlo, 10 secondi si va, se Pier ci avvisa per tempo che succede qualcosa. Si può fa anche l'ultima scommessa, sfruttando Pardo. Non succede niente, per ora non succede niente. Adesso c'è Chiellini che avanza, se volete ve lo dico. Vai. Diccelo, dai. Se no vi dico che ha toccato verso le ciglia, poi vi dico che potrebbe esserci stato un cross, un colpo di testa da parte del signor Arevalo Rios. No, ma ci siamo attrezzati, Pier, ci siamo attrezzati. Vai pure, vai con 2 minuti di telecronaca, vai, radio cronaca, vai. Laterale, occhio a Marchizio, suo possesso di palla, vuole smentire Cruciani, palla verticale, profonda, cercando De Sciglio che ha lottato su questo pallone. Il debutto nel mondiale per De Sciglio dopo le prime due partite saltate. I minuti qui sono 18:53 sul cronometro del primo tempo. È 0-0 fino a questo momento, nessun brivido, nessuna emozione, se non la visione del signor Sepp Blatter. Esatto. Il signor Blatter, ecco che è apparso. È apparso un po' sinistro, molto invecchiato l'ho visto. Sarebbe anche ora. Non si, evidentemente non si è dipinto. Si è dipinto i capelli perché ha dei capelli, dei basettoni bianchi, inguardabili. Se lo vede Renzi, tipo lo Mefisto, sta là tipo Mefisto. Ma un motivo c'è, perché col caldo gli cola il cerone. Mamma mia, io voglio sentire cosa sta facendo Enrico da Milano. Buongiorno a tutti. Cosa sta facendo in questo momento? Ma per quale diavolo di motivo lei ci chiama? Sono in questa televisione, vi sto ascoltando alla radio. Siete Vabbè, c'è una forma di malattia che non ancora evidenziata. Incurabile. Attenzione all'Uruguay. Come vede la partita, Enrico? Non la sto guardando, vi sto ascoltando. Ah, non sta guardando la partita. Ha spento la TV. No, spento la TV. No, ma la prego, riaccenda la TV. Se no, veramente. No, vediamo. Se segna l'Italia, la tenga spenta. No, se no, la riaccenda. Se volete voi, l'accendo subito. Sì, lei la tenga bassa di volume, ma l'accenda. Esatto. Mamma mia. Immagino che lei sia da solo, perché altrimenti quelli intorno a lei l'avrebbero già scannata. O no? Ha capito benissimo. Bravo, Cruciani. Cioè, da solo, a vedere la partita da solo alla radio Italia-Uruguay alle 18:20. Di martedì. Bisogna qualcosa, Enrico? Posso fare qualcosa per lei? No, la prossima volta chiamate anche Milan, poi siete perfette. Arriva anche lui. Allora, quest'ora va letto di solito, però l'abbiamo svegliato per l'occasione. Immobile. Qualcuno immobile. Vuole commentare la partita o andiamo avanti con questa cosa? Diciamo, se vuoi ti do due numeri. Allora, primi 20 minuti, possesso palla Italia 63%. Stiamo facendo tre quarti dei passaggi, significa che stiamo facendo una partita abbastanza fotocopia alla prima con l'Inghilterra. Almeno c'è dal più punto di vista dei numeri. Vedo io. Quindi è vero che c'è garra, ci sono botte, ci sono falli, c'è tutto. Però tatticamente sembra che almeno in questo inizio l'Italia l'abbia un po' incartata bene. Quello che dicevo io. Un ritardo di mezz'ora, eh? Com'è? Com'è? Io sono in ritardo di mezz'ora sulla mia TV, eh. Lei, anche lei è in ritardo di mezz'ora? Sì, vabbè, ma cosa vuole? Siamo. A questo punto è Pardo che è avanti. Facciamo. È Pardo che avanti. Ma io, Pierluigi, io dico una cosa sola: arrivare a un quarto d'ora dalla fine, qui non c'è un'occasione manco a pagarla oro. Arrivare a un quarto d'ora dalla fine sullo 0-0 è una roba che veramente. Io credo che non ce la faccio l'ultimo quarto d'ora. No, ma sì, che ce la fai, no. Ma dai, ma quante ne hai viste in queste partite? Io vi dico, se si arriva a un quarto d'ora dalla fine in questa condizione, esco. No, esco. Vabbè, ce ne faremo la ragione, come dice Renzi, dai, anche con te. Io penso che noi siamo qua per dire un certo numero di fesserie. Ecco, questo è Freccero, come sempre. Era Mughini. Buoni. Allora, dato che io sono preoccupato per Enrico, Alessandro Milan, buongiorno. Anzi, buonasera. Buongiorno. Ciao, buonasera. Che ha detto? Ma, ha detto che è a casa, da solo, ha spento la tele, ci sta ascoltando, ha chiesto, ha bisogno di qualcosa, devo venire lì, posso fare qualcosa per lei? Ma ha detto, attenzione al cartellino giallo. Chiami Alessandro Milan. Ha ammonito Balotelli, credo. Ha ammonito Balotelli. Balotelli che era diffidato. Quindi sarà squalificato eventualmente. Quel genialata di Balotelli. Pardo? Che giallo ha preso? Sì, giallo per un intervento assolutamente inutile in mezzo al campo su Alvaro Berenda. Roba incredibile, una roba incredibile. Guarda che tu gli hai fatto, gli hai saltato, testa. Non esiste una cosa. Il problema è che adesso, essendo già lui ammonito, non giocherà non giocherà la prossima eventuale. Punizione per l'Uruguay. Cioè, mi dici il senso? Scusa, per Luigi, io non sono un anti. È tutto a posto, ragazzi. Io non sono un anti ballotelliano, ma dimmi te che senso ha questo intervento. Sai di essere ammonito. Vabbè, ragazzi, che? Cioè, non ragazzi, sai di essere ammonito? Sono d'accordo. Che ti devo dire? Adesso, Dio, cosa ti devo dire? Ma siccome dobbiamo parlare per tutta la partita, qualcosa dovremmo dire. È stato ammonito Balotelli, è squalificato la prossima partita. Qualche polemica la dobbiamo tirare fuori. Un attimo. Allora, un po' di ordine. Una volta che non brilla per intelligenza calcistica della sua carriera, detto questo, siccome è un giocatore che il colpo in canna ce l'ha sempre, speriamo che per 5 minuti ci faccia vedere il lato positivo. Comunque andiamo avanti con la cronaca. È stato un intervento di pura irruenza quello di Balotelli, non è stata una cosa completamente inutile, di pura irruenza, di pura foga agonistica. Batte De Sciglio questo out dalla sinistra, scambia con Balotelli, ancora la palla su Verratti, ma c'è la difesa dell'Uruguay che libera ancora. Io insisto nel dire, non lo so, voi siete pessimisti come molti che ci scrivono, questa è una nazionale mediocre, 1-0 primo tempo, 2-0 andiamo a casa, eccetera eccetera eccetera. Io non sto vedendo male l'Italia adesso, 23-54. Secondo devo me sta facendo la partita. Sul centrocampo ci siamo più che col Costa Rica, non ci voleva molto, direte voi, però ci siamo più. Pirlo mi sembra che abbia ripreso un po' a fare quell'operazione da centrocampista puro di regia. Però, e loro devono vincere, ragazzi. Loro devono vincere, non dimentichiamo questo ripeto, dettaglio. Tu dici conta poco, invece conta. No, perché, conta. Se arriviamo 0-0 un quarto d'ora alla fine, voglio vedere l'atteggiamento psicologico dell'Italia quale sarà. E voglio vedere anche loro. Qualsiasi però, palla Giuseppe, che arriva in area è un pericolo. Signor Milan, io voglio sentire cosa che partita sta vedendo. Se sentivo una voce un po'. Io sono anti Balotelliano toc da sempre, esatto. Che segue, ho lanciato l'hashtag via Balotelli, non lo voglio vedere con la maglia del Milan mai più. Però Forza Italia, vedete, Forza Azzurra eccetera, ma cosa ha fatto? Ma l'avete visto? Cioè, certo, due tacchetti sulla nuca di un giocatore a metà campo, così è giusto per... Ma ha ragione Alessandro, c'è un giocatore che sa di essere ammonito, sa di essere in odore di squalifica, no, che fa un intervento. No, tranquilli, ho già visto tutto, l'ho già vista un tiro di giocatore che fa un, ragazzi, io ripeto, un giocatore che fa un intervento del genere, cioè, una vergogna. Poi al ventesimo sullo 0-0, ma veramente va bene. Comunque la partita cos'è? È una partita di quelle che ci si aspettava, qua c'è mio figlio che urla, cosa vuole urlare? C'è anche mio figlio che vuole dire qualcosa. Forza Italia! Abbiamo già dato su quel sfruttamento fronte di minori in assenza di ma dove stai vedendo la partita? Scusa, la gente vuole sapere. Alessandro Milan, dove sta vedendo la partita? In mezzo ai tifosi da qualche parte? Non frega nessuno, ma diciamo così, per motivi di conduzione. Divano, sei sdraiato, quei divani frontali alla TV, sdraiato proprio in Bermuda. Dai, raccontaci anche il modello, così facciamo pubblicità occulta, va bene. Tiro di Barzagli, Pardo, che succede? C'è niente. Come niente? Pardon. Io mi sono esaltato. Pardo in spiaggia, è chiaramente in spiaggia, e diccelo che non serve della partita. Praticamente ci sarà adesso qualche scintilla fra Pirlo e Cáceres, tra l'altro compagni di squadra della Juve, per chi dovesse prendere il pallone. Alla fine palla per l'Uruguay con Cáceres che la manovra, siamo al cerchio di centrocampo e siamo al 27esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0. Occhio a Godin, palla verticale verso Cristian Rodriguez, c'è spazio per Adolo Pereira, ma il tocco è su Cavani sulla tre quarti di campo, viene chiuso regolarmente per la Verratti, e allora possiamo andare, palla buona verso Balotelli, Immobile che si propone, Balotelli a campo davanti a sé, prova Balotelli, conclusione la distanza larghissima, c'era l'opzione Immobile, ha provato Balotelli, si è rivisti. Sì, c'era l'opzione Immobile, in effetti. Sì, ma Immobile si è mosso male, però. Immobile si è mosso male. Guarda la sovrapposizione che ha fatto Immobile con Balotelli che va sul corridoio centrale e Immobile che va ad incrociare la corsa di Balotelli. Sì, tra l'altro poi si è messo in fuorigioco, quindi esatto. Era del tutto impossibile per Balotelli dargli quel pallone. Cosa che riporta, secondo me, anche al lavoro che andrebbe fatto se tu decidi di giocare con due punte pesanti, particolari come queste due, invece di deciderlo a 48 ore dalla partita. Perché questo, te lo chiedono i giornali? Questo è vero. Perché qui si è visto chiaramente, Pier, io non so se hai avuto la stessa percezione dallo stadio, c'è proprio una difficoltà nel coordinare i movimenti. No, sicuramente, però insomma sapete l'accettazione mentre il numero di Verratti, una cinquantina di Verratti, palla buona per Marchisio che cerca Rescidio, non lo trova, c'è la copertura da parte di Alvaro Gonzalez, e allora sarà rimessa laterale per l'Italia, passano i minuti, 28esimo del primo tempo, da qualche minuto, però insomma l'Italia sembra un po' più sicura in mezzo al campo. Pirlo con il tacco elegante della zona di Verratti, il suo lavoro, ancora il tocco di ritorno verso Pirlo che prova ad andare verticalmente ma sbaglia tutto, Alvaro Gonzalez lascia scivolare il pallone in out, sarà dunque rimessa laterale per l'Uruguay, dicevamo da qualche minuto Pirlo e Verratti, mi sembra che abbiano preso in mano la situazione uruguaya contratto Pirlo soprattutto. Pier, devo dirti una cosa, che la prestazione di Verratti, che in questo momento mi sembra ottima fino a questo momento, mi fa venire in mente una cosa, rende ancora più incomprensibile la sua esclusione contro il Costa Rica. Dicono che avesse la febbre, ma gioca anche con la febbre. Quale febbre? A 21 anni non vogliamo. Ho sentato altro numero di Verratti che evita Suarez, grande problemi, e poi apre nella zona di Chiellini. No, quello che dicevamo, insomma, è chiaro che qui Prandelli sta facendo una formazione che è il contrario di quello che ha detto e fatto per mesi, per cui se uno vuole essere contro Prandelli voglio dirti che se dovesse andare bene, allora uno dice ma perché sta squadra non l'hai fatta prima. Attenzione, Immobile colpisce malissimo, occasione per Immobile, cosa la sinistra di Desciglio, palla altissima, era buona questa, non è buona fino adesso la partita di Immobile, perché questo bisogna dirlo. Stiamo a criticare Balotelli, io sto vedendo Pirlo e Verratti, una grande prestazione per loro, mi piacciono i due terzini, i due di centrocampo, i due esterni di centrocampo, bene. Balotelli alti e bassi, tanti e pochi, Immobile inesistente, quello ragazzi, che può sbagliare. Immobile è alla terza partita del nazionale. Lui sta a Balotelli, allora? Come Pier sta a allora? Cassano, nel senso che lui è un balotelliano di ferro, difende anche l'indifendibile, anche se ogni tanto traversa il Costa Rica con Borges, quindi resta Inghilterra 0 Costa Rica 0, ma traversa della terrificante, ripetiamo, in questo Costa momento Rica, qualificata al 30esimo del circa del primo tempo, Costa Rica prima, Italia seconda. Tu che sei padrone di casa, c'è la borsa quest'ora? Sì, c'è la borsa, lo dico io perché faccio anche per i sesti, ogni tanto c'è la borsa e quindi cioè la borsa mandiamo... funziona anche durante la partita? La borsa c'è anche oggi, decisione c'è anche oggi. E la borsa c'è 800 24 0024, ci sono un sacco di ascoltatori anche già in se linea. Segna l'Italia durante la borsa facciamo borsa per un'ora di fila. Ma interrompiamo la borsa istantaneamente, vabbè, proviamoci, borsa. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento. Non c'è niente di nuovo, all'inizio di tutte le manifestazioni in Italia c'è sempre pessimismo. Yeah! Io dichiaro ufficialmente che fondo il partito dell'ottimismo. Yeah! Secondo me c'è troppo poco entusiasmo, porca vacca, secondo me andiamo là e vinciamo. Yeah! E quando mi è stato posto la domanda chi vince i mondiali, io ho detto l'Italia. Yeah! Dai, basta piangere addosso, di qui e di là, vinciamo noi. Siamo gli ottimisti, ben ritrovati al consueto appuntamento di ottimismo contemporaneo obbligatorio. Yeah! E ci sta, 0-0, 36-14, ma al minuto 33, brivido caldo, Suarez, triangolo velocissimo sulla sinistra della nostra area di rigore, triangolo velocissimo con Lodeiro, doppio intervento di Buffon, parecchio complicato, però... resta un'Italia che fino a questo momento sta controllando la partita, la sta tenendo in mano. 800 24 00 24, tra un attimo comincio a parlare con i nostri ascoltatori, anche perché, ripeto, sono un po' preoccupato come per Carlo ed Elisa, che da 2222 metri di altitudine stanno seguendo tutti i convocati senza televisione nel rifugio, hanno scelto noi, grazie, baci. Dario Ricci prima, lui e i suoi ospiti, i suoi compagni di banco lì allo stadio di Nadal, che succede? Eccoci Carlo, tra l'altro da sottolineare che sull'azione precedente dell'Uruguay con doppio intervento di Buffon si è verificata con Balotelli a terra, perché era in seguito a uno scontro con Caceres e poi acqua agitata una volta che il gioco si è fermato tra le due panchine e protagonista, manco a dirlo, proprio Suarez, di una diatriba con De Rossi poi fragata dall'arbitro. Chiedo un parere qui a Tancredi Palmieri di Beansports.tv, amico ben noto alla voce, agli ascoltatori di tutti i convocati. Beh, Tancredi, un'Italia che sicuramente ha sofferto, però adesso grazie a Pirlo e Verratti, anche ai tre juventini dietro, sembra riuscire ad anestetizzare abbastanza bene questo Uruguay. E io direi più Verratti, perché devo dire Pirlo ha molta pressione, mi scuso per la voce intanto, Pirlo ha molta pressione, si stanno scambiando le posizioni con Verratti e Verratti sta prendendo la responsabilità che Prandelli si aspetta. E cioè, dire una cosa, è una partita di personalità, è una partita dove è un arbitro sudamericano, lo evidenzia, non dobbiamo farci intimidire, per ora ci siamo un po' fatti intimidire, serve che l'apporto di quelli davanti si faccia sentire. Balotelli e Immobile non si sono visti però. Infatti, finora Carlo, Immobile e Balotelli stanno un po' giocando come diceva nella Serie A italiana, al minimo contatto guardano l'arbitro, cercano il fischio, questo fischio 9 volte su 10 non arriva e quindi quello è un pallone recuperato dagli uruguayani, sì, che lo rimettono chiaramente, lo rimandano, sì, anche se c'è un adesso messaggio. Marchisio al limite dell'area, prova a liberarsi e cerca sulla destra proprio Verratti, chiude Alvaro Pereira in rimessa laterale. Molto spesso andiamo a cercare questo spazio che si apre tra Caceres e Alvaro Pereira sulla destra, c'è un'altra occasione, Pirlo aveva provato a pescare, anzi lo stesso Martino aveva provato a pescare Darmian senza fortuna, ma lì sembra esserci qualche spazio. Intanto rimaniamo qui perché Darmian tenta il cross, Muslera anticipa Immobile, sì, quando siamo al 39esimo di gioco, 0-0 qui resta, grazie Dario Ricci, resta la sensazione di una splendida partita di Verratti. Ricordo, siamo qui per vivere questa partita e il dopo partita, parterre del ruolo di Radio 24, Sebastiano Barisoni, Giuseppe Cruciani, c'è Giovanni Capua, c'è Pardo dallo stadio, sono un sacco di ascoltatori in linea e io parlo con loro. Ti leggo questo messaggio: il fallo su Balotelli era da ammonizione più di quello fatto da lui. Cruciani, che cosa dice adesso? Ho scoperto una cosa che è totalmente ininfluente, un piccolo dettaglio. Perché oggi Buffon ha la maglia amaranto? Era con la maglia arancione, tu non c'era, te lo ricordi? C'era una famosa rubrica su Cuore che rispondeva al nome e Kick se ne frega, però sì, infatti ho detto subito, ti prego informaci. La rubrica sti cazzi, questioni, no, io per no, questioni scaramantiche, no, no? Queste fasce, no, siamo, no, guarda, no, la maglietta di Muslera, maglietta arancione di Muslera, e dunque maglia diversa da parte di Buffon, che era con la maglietta arancione durante la partita. Quindi la scaramanzia è un centrapunto? Non c'entra nulla. Vabbè, ma sono piccole cose che... Tu che riti scaramantici hai? No, io rito scaramantici, io non voglio arrivare a 10 minuti dalla fine sullo 0-0. Se era un quarto d'ora. Se no non reggo la pressione. 20 minuti fa avevi un quarto d'ora, mo sei a 10. Vabbè, facciamo 10. A 5. Se no non reggo la pressione. Sebastiano Barisoni, che riti scaramantici hai? Nulla che si possa riferire in fascia protetta. Che perché anche. No, io cambio. Che questa è una fascia. Io pure cambio. Uno per volta. Di solito cambio anch'io, sì, cambio. Di solito cambio, non vedo... Cambi cosa? Cambio canale, tutto, non vedo la partita, accendo... Vabbè ragazzi, ma voi siete malati, posso dire. Ma sì, abbastanza malati. Silvia da Verona, mi dia una mano lei. Silvia. Sì, è difficile darvi una mano, siete troppo simpatici tutti e tre insieme. Sono preoccupato anche per lei. Io di solito vi ascolto, diciamo, separatamente. Perché anche perché non c'è alternativa, Silvia. Esatto. Sì, però, insomma, voglio dire, ma tutti insieme direi che anche Cruciani è migliore stasera. Sì, perché adesso... secondo me lo affiancheremo sempre di più, blinderemo la zanzara, secondo me, praticamente... no, ma sa perché Silvia, sa perché? Perché c'è Barisoni accanto a lui e se deborda lo mena, gli dà. Secondo me, diciamo, ha un flusso positivo su di lui, perché stasera lo sento più, sì, diciamo, come più mago, come mago, ma guardi migliore. Che Cruciani non è come lo immaginate voi, non è come lo dipingono, come Jessica Rabbit, è molto ma dipingono, allora, così tutte le sere sapere praticamente. Signora, questi però sono problemi suoi che non possiamo affrontare in pubblico. Però diciamo che ultimamente mi sembra peggiorato. Ma la domanda è: perché lei ci chiama durante la partita Italia-Uruguay? No, questo? Allora guardi, diciamo così che quando vi ho chiamato ben più di 40 minuti, un'ora fa, diciamo ero in macchina e stavo venendo a casa, quindi ecco. Diciamo la partita l'ascoltavo tramite voi. Sì. Da 5 minuti sono arrivata in a casa, quindi adesso ci spegne la TV, ma vi seguo lo stesso. No, ma spenga, spengalo. Prego? No, spenga, parlavo della partita. Prenda picconate la televisione, spacci la televisione con un martello. Ma mancherebbe, dopo chi me la compra? Cruciani! Ma Cruciani è ricchissimo. È ricchissimo, ricchissimo. La borsa, io sono una bancaria, purtroppo ascolto sempre Sebastiano, ma la borsa durante la partita è stata... Lo penso anch'io. Cancelliamo la borsa, ma cancelliamola proprio anche definitivamente dal partito. Va bene, Silvia, grazie. Silvia, grazie. Allora, mi scrivono, Buffon 2006, tutto il mondiale in giallo, tranne semifinale con la Germania, in amaranto, esatto. Claro? E resta sì, sempre... è vero, però era in arancione con la Costa Rica, ragazzi. Possiamo, così. Allora, se vogliamo aprire uno spazio della rubrica a cui facevo riferimento prima. Bellissima questa, senti, Manzoni profetizzò la verità su Immobile e i fu. Sì, va bene, ok. Pardo, che succede? Qualcuno ci racconta Pardo. Anche la partita, magari. Ecco. Pierluigi. Io volevo dire che la rubrica sul traffico, il traffico mi sembra completamente inutile perché non c'è nessuno per strada. Questo non è male. Ho già detto, quindi Pardo, non è male, però. Oppure facciamo un aggiornamento per la chiusura del Dow Jones. Per il resto la partita va avanti così, con un senso di pennica profondissimo. Volevo dire a Cruciani che è meglio stare 0-0 che 0-3 comunque a 10 minuti dalla fine, quindi tutto sommato possiamo. No. Sì, siamo. Mi sembra. Siamo veramente all'obietà. La signora di Verona che cosa cucinava? Che c'ho. Che notoriamente tu sei una dieta e che tende all'anoressia. Vabbè. Però lo chiediamo a Claudia che cosa sta cucinando. Claudia, buongiorno. Cremona. Buongiorno, sono Claudia. Sì. Allora, a parte il fatto che Cruciani mi piace in tutte le salse in cui viene dipinto. Adesso prego di ricordarmi. Mi lecco i baffi, scusate. Siamo mi lecco in fascia protetta, vada avanti. In qualsiasi salsa va benissimo. Sì, va bene. Ecco, quanti anni ha, cara signora? Allora, io volevo solamente dire una cosa mostarda. Sulla partita. Se è possibile. Sì, prego, signora. Certo. Da non intenditrice, intendiamoci, di calcio. Sì. Le facce dei nostri giocatori, io lavoro in ospedale, in psichiatria, quindi ho una certa competenza. Questo è utile per Cruciani, ma prego. No, assolutamente. No, le facce dei nostri giocatori mi fanno pensare, sembra che dicano, io come mai sono qui? Cosa faccio qui? Cosa devo fare qui? Non c'è nessuna grinta, nessuna... Però questo è interessante. Signora... La signora che lavora in un reparto di... Lei è psicologa, signora, psichiatria o psichiatra o psicologa? Psichiatria, ha detto. Io lavoro in psichiatria come operatrice. Come operatrice, però comunque ha a che fare con persone un po' punizione, fuori di testa. Punizione di Suarez dai 30 metri più o meno, spostato sulla sinistra della nostra area di rigore. Parte Suarez in questo momento, la metti in mezzo, mucchio niente, selvaggio, niente, va bene così. E fino a informazioni mucchio selvaggio era il titolo di un film. Bravo. Si formano le coppie, prima mucchiata della serata. Ecco qua. Allora, fino a informazione di servizio, fino a quando siamo qua a cazzeggiare? No, però la signora, scusate, ma la signora ha detto una cosa fondamentale. Cioè, una cosa fondamentale. Sì. Cioè, guardando in faccia i giocatori dell'Italia, lei che ha a che fare con mattoi di gente fuori di testa, persone disturbate ogni giorno, cosa vede nelle facce di attenzione quei giocatori? Attenzione al cross, un secondo solo. Signora. Il corner. Corner che ci frega del corner. Corner per l'Uruguay dalla destra. È sempre Suarez che mette in mezzo Pirlo, sbroglia. Si dice sbroglia, Pardo? Posso dire sbroglia? No, devo dire un'altra roba? Si dice, anzi, potremmo approfittare di questi minuti per dire tutte le cose che secondo me è meglio non dire, tipo risultato d'occhiali, orologi, alabardati, scaligeri. No, scaligeri si può dire, a parte il resto sono d'accordo. Tu trovi dei ragazzi di 25 anni che dicono la compagine, ma non lo direbbero mai, lo spauracchio. L'altro giorno ci sono stati un paio di spauracchi. Io vorrei capire nella vostra vita quando mai avete usato l'espressione spauracchio. Che fai stasera? Ma sì, no, esco però un po' lo spauracchio. Non lo dice nessuno, la barba al palo. Facciamo una campagna, facciamola questa campagna. Magari domani, magari la facciamo domani la campagna. Vai con l'ultimo minuto, vai. La signora però non ha ancora risposto, faccio notare. Fermo a terra, ma l'Italia attacca comunque, palla larga verso Resciglio, superato il 45esimo, tocco verticale verso Immobile che riprende il pallone, ancora l'appoggio verso Resciglio che poi la mette in out per consentire le cure all'esterno della granata Darmian, calpito d'ora qualche istante fa. Ragazzi, comunque è vero che l'Italia controlla, eh? È vero che l'Italia controlla, però. Però cosa? Però non va bene così, non va bene consegnarsi agli ultimi 10 minuti di crepacuore, non va bene, ve lo dico, non va bene consegnarsi agli ultimi 10 minuti. Solo per averti fuori dallo studio. Signora, dovrei... cosa vede nelle facce dei giocatori italiani? Io ripeto, questo è fondamentale, voi non me ne rendete conto, tanto il gioco è fermo. Vedo che non hanno la consapevolezza di quello che stanno facendo, non in tutti, intendiamoci, non in tutti. Non in però tutti. Sicuramente... Boh, non lo so. Non vede grande convinzione, vede un po' di paura, vede un po' di terrore. Non per niente, ma neanche. Questo è interessante, eh? Questo è interessante. Menefreghismo è la parola più idonea. Ma non, non, va bene. Non, secondo me mi sembra eccessivo. È finito il primo tempo, quindi io con il vostro permesso faccio sentire l'inutile traffico. No, non è inutile, per dire che non c'è nessuno in giro. Ok, allora, signore e signori del traffico, diteci non c'è nessuno in giro. Questa cosa del traffico mi esalta, lo sai, Nogaro le Rocca, l'ho sentita tante volte da ascoltatore, mi gasa tantissimo. Allora, torniamo per un commento da Dario Ricci, suoi ospiti, e Pierluigi Pardo, e poi ho Cinzia da Trento, Danilo da Cremona, Cristoforo da Salerno, Gianni da provincia di Milano. State con noi, non ci lasciate. 800 24 00 24, tra un istante parlerete anche voi. Dario. Eccoci Carlo, 0-0 alla fine del primo tempo, da segnalare tra l'altro che al 41esimo l'abbiamo vista brutta perché Balotelli ha rischiato l'espulsione, perché su un pallone fuggito dal controllo ha toccato la palla con le mani, l'arbitro Rodriguez ha fischiato la punizione e gli uruguaggi hanno chiesto chiaramente la punizione, poteva anche starci, per fortuna non è stato troppo fiscale. Ancora con Giampiero Di Mossi del secolo 19, Giampiero, un'Italia che... sembra aver anestetizzato l'Uruguay in questo primo tempo, però non riusciamo a farci largo davanti. Immobile e Balotelli stanno soffrendo parecchio e quindi anche un po' anche la squadra. Allora, Immobile si è fatto trovare spesso in fuorigioco, dimostrazione che l'Italia è una squadra troppo lunga, lo ha dimostrato anche nelle prime due partite, magari la vittoria contro l'Inghilterra aveva il record dopo le prime due gare di fuorigioco, 18, la seconda squadra l'Uruguay con 9, quindi insomma grandi difficoltà. Migliore in campo credo Verratti, e questa è la dimostrazione ancora una volta che Prandelli contro la Costa Rica ha sbagliato formazione. Bisognerebbe cercare con maggior continuità Verratti a centrocampo, che spesso è bravo a smarcarsi. Inspiegabile la prestazione di Balotelli, l'unica cosa che ha saputo fare è stato protestare con il guardalini a fine partita, speriamo si svegli, speriamo che torni ad essere il Balotelli visto a tratti con l'Inghilterra e comunque decisivo. Un risultato che fin qui premia l'Italia anche al di là di quelle che sono le cose che è riuscito a far vedere in campo fino a questo momento. Ora dovrebbe allungarsi però anche l'Uruguay, perché un tempo è passato e loro il gol lo devono fare. Come potrebbe cambiare tatticamente il match? Non so, credo che per l'Italia sia difficile fare qualsiasi tipo di sostituzione, la squadra è impostata in questo modo, davanti con Balotelli e con Immobile non vedo in questo momento alternative, e comunque il risultato, ripetiamo, premia l'Italia al di là del fatto che nessuna vera occasione da gol è stata creata dagli azzurri. Non so cosa possa rischiare in più Tabárez, credo che speri nella giocata dei suoi due attaccanti, meglio decisamente Suarez, sempre meglio, almeno questo è il mio avviso, rispetto a quanto non abbia fatto vedere fino a questo momento Cavani, anche un po' impreciso nel controllo, probabilmente irritato dalla stretta marcatura degli azzurri, buona la marcatura degli attaccanti dell'Uruguay. Grazie. Benissimo, benissimo. Molto bene Dario, ci sentiamo tra pochissimo, adesso ti lasciamo all'intervallo. Io vorrei un minuto di commento, Giovanni Capuano. Barisone è andato via. Barisone è andato via. Se ti posso dire una cosa a proposito degli attaccanti, ti dico che i nostri due attaccanti, oltre che Immobile spesso in fuorigioco, Balotelli nervoso, ha rischiato l'espulsione, ha fatto bene Dario Ricci a sottolinearlo, e questo è un altro mezzo punto in meno in questo suo primo tempo, stanno correndo molto mediamente meno dei loro colleghi uruguayani. E se per Cavani questa non è una novità, perché Cavani è uno dei giocatori alla Rooney più totali del calcio mondiale, è abbastanza inquietante che i due nostri stiano correndo meno di Suarez, che invece ha un ruolo diverso, ha una mobilità diversa, ha una condizione fisica diversa. A me sembra che l'Italia stia controllando bene, sia messa bene a metà campo, Verratti assolutamente il migliore in campo, però attenzione, perché di questo passo io non so se poi noi eventualmente in caso di emergenza abbiamo un cambio di velocità a disposizione. Mi sembra che sia un'Italia che sia destinata ad andare avanti così dall'inizio alla fine, sperando di non prenderlo il gol. Finora non ha fatto pochissimo anche l'Uruguay. Secondo me il primo tempo inguardabile dell'Italia, abbastanza inguardabile, voto 5, con Balotelli ancora più imbarazzante di tutti, voto 4. Buffon tiene in corsa l'Italia, non ha rischiato moltissimo. Per quei due interventi su Suarez. Per quegli interventi che ha fatto. Mi segnalo una discussione al rientro dagli spogliatoi tra Caceres e Bonucci, discussione piuttosto accesa al rientro dagli spogliatoi. E poi tutte le donne che in questo momento non sono davanti alla televisione, che sono in macchina, che sono interessate a collegarsi con Radio 24 per un quesito fondamentale: ma qual è il giocatore che vi attira di più? Il giocatore che vi fa più sangue? Che vi attizza di più? Cinzia, qual è? Cinzia da Trento? Pronto? Sì, mi sente? Sì, risponda a Cruciani, grazie. A me piace Balotelli. Brava, anche a me, no, non fisicamente, come giocatore. Scusate, signori, sì. Io sono una salta, sto lavorando e vi ascolto dalla mattina alla sera. Sì. Mi piace Barisoni perché fa l'economia con il disco music, che è il massimo. Mi piacciono le parolacce di Cruciani. Grazie. Però, forza Italia, poverini, sono bastonati con te. Mi immagino lo stress che hanno in quel campo, che devono dimostrare a tutti gli italiani che sono bravi. Ma delle volte, cioè, lo stress ti porta anche a sbagliare. Ma lei, ha ragione, ce l'hanno anche gli altri, però. Gli altri si arrangino. Io sto pensando gli altri, fatti loro, gli altri, chi se ne frega. Io sto pensando allo stress della squadra italiana che ha perso col Costa Rica, e pensi che io sotto casa avevo dei costaricani che hanno fatto casino fino alle 2 di notte, cioè si immagini, io ero lì che il cielo li fulmini questi qui che hanno fatto casino. Costa Rica 0-0, no? Costa Rica 0-0 con l'Inghilterra? È importante il Costa Rica, non riesco a capire. Tra l'altro noi abbiamo parlato 10 minuti del nulla, perché la maglia di Buffon non è, come hai detto te, è granata. Ho semplicemente notato una cosa, ho fatto notare una cosa, che è cambiata la maglia di Buffon rispetto alla partita con Costa Rica. Io non so perché, ma è cambiata la maglia di Buffon. È vero che nel passato è sempre stata di questo colore qui, però Una gialla, una verde. Gioca con la maglia del Toro. Una gialla, una verde, una rossa. Si sta scaldando Parolo per la cronaca. Sì, a posto di chi? Se chiamiamo Pardo lo sa già. Ti do un altro dato statistico: Immobile e Balotelli si sono scambiati la palla 3 volte nel primo tempo, di cui una è stata al calcio d'inizio, quindi diciamo possiamo anche toglierla dalla statistica. Si sono passati il pallone 2 volte in 45 minuti. Allora, ci fermiamo per un rapido GR. State con noi, 800 24 0024, fino alle 21. Jimenez restituisce, e così facendo l'arbitro dice che può bastare, manda tutti a bere qualcosa. 0-0 alla fine di un primo tempo brutto, teso, nervoso, durissimo, ma lo sapevamo, super spot. Allora, rieccoci al secondo tempo abbondantemente iniziato, siamo al 49 e 29. Per vivere insieme questa serata, le voci della Radio 24, Giuseppe Cruciani, Sebastiano Barisoni, c'è Giovanni Capuano, anche c'è Pardo e Ricci dal Brasile. Allora, soprattutto non c'è più Balotelli in campo, la mossa della paura, e a questo punto, ragazzi, mi preoccupo anch'io. Fuori Balotelli per la paura di un'altra munizione, o forse per paura della critica. Ma chi? Ma perché? Finalmente giochiamo in 11. Vabbè, finalmente giochiamo in 11, adesso lo vediamo. Se giochiamo in 11, vediamo in una squadra che non riesce a fare gol. Se togliendo Balotelli, segneremo tre gol. Con Carlo, devo dirti la verità, che io adesso chiederemo a Dario Ricci, chiederemo a Pierluigi Pardo, chiederemo ad altre persone. per me questa mossa è totalmente incomprensibile. Balotelli perché si torna arrabbiato duro e lo perdi. Tra l'altro è contro quello che Prandelli voleva fare all'inizio, senza che sia successo nulla di particolare, perché non siamo sotto. Reclama un rigore, sì, un rigore Cavani. Campiato in area di Cavani. Però dico una cosa: è praticamente un ritorno alla partita, alla formazione, allo schema che ho utilizzato con Inghilterra, eccetera. Credo di no. Credo che siamo al quinto. Però è meglio chiederlo allo stadio, perché non è semplice in televisione. Ma credo che siamo al quinto modulo in due partite e mezzo, perché Parolo dovrebbe giocare alle spalle di Immobile. Cioè, si sono accorti che mancava un raccordo tra il centrocampo e i due davanti. Casino totale. Sebastiano, cosa ne pensi? No, penso, sono d'accordo con voi, purtroppo, mi dispiace esserlo, è abbastanza inspiegabile l'uscita di Balotelli, anche perché non ha fatto una grandissima partita, ma è l'unico giocatore che può da solo fare svoltare la partita con un'iniziativa individuale anche all'80esimo, per cui Immobile e nomen omen rischia di essere sempre più Immobile. In effetti questi continui ci consegniamo una partita di contenimento, sì, questo è il punto, esatto. Ci consegniamo una partita di contenimento, ma Pierre, che dici parla su così? Questo? Che Immobile da solo non mi piace tanto. Immobile mi piace con un trequartista che lo possa ispirare, uno dei tre, fate voi. Dai, di la verità, vuoi Cassano, sì. vuoi Cassano, è il momento. È il momento. Se Cassano Immobile in assoluto è la coppia migliore, per questo lo penso, però è chiaro che Cassano l'altro giorno ha fatto schifo, lo dico per sì. No, però al di là di questo, Pierre, come interpreti questa mossa? Perché adesso al di là di chi preferisci cosa... 4-3-2-1 è il modulo che abbiamo fatto con l'Inghilterra, non è molto diverso. Se si fa in mezzo, cambia la prima punta, sicuramente Balotelli fa più reparto da solo, come dicono i bravi giornalisti. Immobile è più un giocatore che ha bisogno di essere servito, Immobile fa dei movimenti un po' più classici d'area di rigore, quindi ha bisogno di un po' di creatività di un trequartista. Balotelli, per caratteristiche, per fisicità, è uno che come punta centrale da solo può far meglio. Ma perché tutto questo? Perché? Perché che cosa? No, perché cambiare dopo un primo tempo che non è stato certamente... Perché Balotelli non è in condizione probabilmente psicologica, mentale per essere, per essere in campo. Io questo cerco di interpretare quello che ho fatto. Certo. No, no, certo, non sei tu Prandelli. È stato. È la mossa della paura. È la mossa della paura, no, dai. No, non è la mossa della paura. Come no. Io non sarei così categorico come Carlo, però obiettivamente insomma... Non la fa il 46esimo la mossa della paura. Qualche ascoltatore, ascoltatrici, sono tutte donne quelle che stanno ascoltando questa diretta, faccio notare. No, voglio sentire anche da Dario, però. Voglio sentire anche da Dario. Dario Ricci. Da Dario, qual è l'interpretazione che si può dare di questa sostituzione di Balotelli? Dario. Adesso vi dico, intanto aspettate, seguiamo un attimo Alvaro Pereira sulla sinistra, il cross al centro, Barzagli chiude e prova a uscire sulla tre quarti su Berratti, recupera Cavani, scusate ma intanto l'Uruguay, per fortuna tocca di mano ed è punizione per noi. Io la vedo diversamente da voi, per me ha fatto bene Prandelli perché Balotelli oggi non era assolutamente in partita dal punto di vista mentale, dal punto di vista tecnico. L'abbiamo visto per quella ammonizione, rischiava l'espulsione e forse così. Adesso lui ha avanzato Verratti e Parolo di fatto sulla linea della tre quarti offensiva, pronti a supportare Immobile. Forse così riusciamo, conquistando un po' di spazio, ad essere un pochino più pericolosi con quest'ottimo Verratti, che pure è da tempi del Pescara, che però non gioca in quella posizione. Sì. Detto questo, il Balotelli di oggi era un giocatore a rischio, meglio Parolo, tra l'altro lo dicevamo anche alla vigilia, perché Parolo in questa idea di squadra, per come lo conosciamo nel nostro campionato, può starci bene, è all'esordio mondiale però. Questa idea di squadra mi sembra tanta roba, l'idea di squadra io non la vedo, e vi faccio semplicemente una domanda, ma secondo te adesso Jimenez, 19 anni di centrale, e Godin sono più preoccupati o meno preoccupati rispetto al primo tempo? Ma io sono d'accordo con Carlo, ma guardate, siamo arrivati. Immobile sulla destra. Immobile sulla destra, entra in area di rigore, cerca lo spazio, viene chiuso proprio da Jimenez, difende il pallone, continua l'azione però di Godin, conquistiamo un fallo laterale. È che di fatto Immobile è tutto il campionato che gioca però con tutto questo spazio davanti, probabilmente riesce a ritrovare delle misure e delle distanze più equilibrate col centrocampo. Intanto siamo in avanti con Marchisio che gestisce il pallone, lo appoggia su Chiellini che tenta l'avanzata ancora su Pirlo, l'appoggio, la palla proprio a Parolo al limite dell'area, al sinistro contrato dalla difesa uruguagia, e rimaniamo lì con De Sciglio al fallo laterale, ancora su Chiellini, proprio Parolo sulla destra, viene chiuso da Jimenez su poi chiude il pallone e sarà rimessa dal fondo per l'Uruguay quando siamo al 55esimo, ancora 0-0. Marina, provincia di Savona, buonasera. Marina, provincia di Savona, buonasera. E buonasera, eccola qua. Sono io, va bene. Sì, è lei. Dica. Allora, io sento... Cosa? Un ritorno di voce, ma io ho spento tutto, eh. Brava, brava. Però ho un ritorno di voce, che Cruciani non brontoli. Io allora per televisione guardo solo il video e poi sento... Sento voi, l'audio lo sento da voi. Bene. Perché secondo voi non ha messo Cassano queste due partite? Adesso mi era telefono con voi, non so se è entrato. No, non è entrato. No, non è entrato. Vabbè, l'altra partita l'ha messa, ha giocato male. Questo è quanto. Più che altro in questo momento non abbiamo alcuna chance di far paura all'Uruguay. Danilo Cremona, buongiorno, buonasera. Finalmente un uomo che ci ascolta. Poi c'è però Luisa da Roma. Ciao a tutti, diamo un po' di carica a questi ragazzi. Sì, diamogliela. L'unica cosa che mi domando, abbiamo puntato sul blocco Juve in difesa, perché non puntare su Cerci Immobili davanti? Corretto. Visto che hanno giocato, visto che conoscono. Sì, visto che hanno giocato. Uh-huh. Un giocatore che dà profondità, un giocatore fisico, un giocatore veloce. Sì, corretto. Questa è una mossa della paura, come dice lui, probabilmente più contenere, cercare di ripartire, ma senza un giocatore veloce come Cerci fai fatica a ripartire. Oh, vediamo, magari ha ragione Prandelli e spera nel contropiede, spera in un Uruguay che vada lentamente a sbilanciarsi verso la fine della partita. Questa è l'unica spiegazione che posso dare ragionando sul perché abbiamo fatto una mossa che chiaramente ci porta più indietro e ci fa fare probabilmente una partita più di retroguardia. Tanto sono suggestionato, forse sono suggestionato, ma mi sembra che l'Uruguay stia salendo, stia portando questo, sul baricentro. Questo non lo so, per adesso il secondo tempo in realtà non dice questo. Comunque mi sembra che sia ancora con la difesa tra l'Italia. Io non ho capito sinceramente come siamo messi. La cosa che mi sconvolge è questa, Giovanni. Tu hai praticamente un tridente formato da Verratti, che non gioca in quel ruolo, come giustamente diceva qualcuno prima, credo dai tempi del Dario, Pescara, dai tempi del Pescara, perché ha sempre giocato davanti alla difesa nel Paris Saint Germain. Verratti, Parolo, anche lui non credo che in questo ruolo abbia giocato moltissimo, e Immobile davanti. Questi tre non hanno credo mai giocato insieme, ma nemmeno mezza volta, nemmeno nelle partitelle per scherzo, cioè, no, in questo modo e tra l'altro due di quei tre hanno rischiato seriamente di non venirci nemmeno in Brasile, perché Verratti era fuori. Parolo è uno degli ultimi che ha convinto Prandelli a dargli il biglietto. Poi magari per andrà bene, però possiamo dirlo ufficialmente 24 giugno ore 19, attenzione. Attenzione all'Uruguay, attenzione all'Uruguay che ci fa. Occasionissima, Pardo, che è successo? Pier. Clamorosa per Cristian Rodriguez, che ha sparato largo, un ottimo triangolo sull'auto sinistra, una buonissima combinazione con il tocco di ritorno verso Cristian Rodriguez. Mamma mia, Barisoni, palla larga, comunque tutto a posto, tutto sotto controllo. I mercati tengono. Speriamo. Rimane stabile l'import-export, come va? Alla buona per Verratti, riparte l'Italia, dai, un po' di possesso, un po' di ritmo, Pirlo, tocco verso Chiellini, va a cercare la profondità, vuole il movimento di Immobile che è solissimo, ma la mette giù bene, arrivano gli importi, si propone Parolo, anche Marchisio, palla prova per Marchisio, tre quarti di campo, Marchisio viene chiuso, arriva palla buona ancora, permesso pallotto nell'arbitro, arriva forse anche il giallo per Marchisio. Rosso per Marchisio. Questa mi sembra un'esagerazione. Rosso. No ragazzi, no, questo no. Questo no. Chiamate l'ambulanza, Parenzo. Ma questo si chiama Moreno, ragazzi, è Moreno. Questo si chiama questo Rodriguez, è Moreno. Rodriguez Moreno. Ma è Moreno 2. Un altro Moreno. No, tra l'altro, adesso proviamo a riprenderci un attimo, ma mi sembra espulsione incomprensibile. Cioè, in apparenza incomprensibile, adesso lo rivediamo. Adesso lo vediamo. Buffon sta litigando pesantemente con l'arbitro. Buffon è il capitano, eh? Eh sì, certo. Ma... Buffon a muso duro con l'arbitro, ci sono sei giocatori dell'Italia intorno all'arbitro, ma vabbè, a questo punto non si può tornare sulla decisione, si tratta di capire se esiste un motivo. Rivediamo. Non abbiamo ancora rivisto l'episodio, Marchisio intanto sta uscendo dal campo e... Ecco qui. Lo rivediamo adesso. Sì. Ma sì, è entrato in ritardo, piede un po' alto, ha colpito sotto il ginocchio. Però mi sembra sinceramente un rosso esagerato. Mi sembra un rosso esagerato. Sì, però attenzione, ragazzi. Allora, vi dico una cosa: gli arbitri è chiaramente esagerato, rivedendolo così è chiaramente una follia. Quello che è. Giallo? Al massimo giallo. Però ragazzi, c'è una indicazione molto chiara: quando tu metti il piede in quella posizione lì, che tu colpisca o meno, che tu, io dico, l'arbitro è stato tratto in inganno perché chiaramente non è un intervento cattivo, non è nemmeno un intervento per colpire la gamba, però quando tu metti il piede in quella posizione purtroppo l'arbitro può capire, abbiamo visto di tutto in queste prime partite del mondiale, abbiamo visto gomitate, è sempre stato fatto passare tutto, sinceramente, ma il metro poi deve essere tutto, non è più, passato più o meno uniforme. No, ma io non capisco una cosa: abbiamo detto all'inizio della partita che questo arbitraggio è un arbitraggio molto sudamericano, in cui chi, Balotelli e anche Immobile, non potevano attendersi lo stesso trattamento di riguardo che hanno nei campionati europei, e poi per una cosa obiettivamente che poteva essere da giallo, tu espelli un giocatore al 60esimo, ma resto molto molto perplesso. Eccoci ragazzi, c'è Buffon che sta urlando a tutta la squadra. Può essere anche che questo episodio è assolutamente negativo. Tra l'altro non è neanche andato con il piede a martello, non è manco andato. Gli ha dato un calcio. Sì, non è andato col piede cattivo, è andato col piede morbido. È andato con il piede alto ma morbido. Quindi secondo me il giallo era. Ma neanche giallo. Una cosa che poteva essere anche tanto. Che diceva Dario? Che dicevi? C'è Buffon che sta provando a scuotere la squadra, ha cominciato a urlare su quest'ultima rimessa dal fondo, certo, rimessa alla TV, è un episodio che può essere interpretato anche come l'ha interpretato Moreno, ma certo condiziona clamorosamente la nostra partita. Adesso c'è intanto De Ciglio che fa questo fallo laterale che a questo punto è preziosissimo. Se tu arbitri alla sudamericana dall'inizio, abbiamo visto i primi 20 minuti dove se ne sono date di santa ragione, secondo me tu non puoi improvvisamente cambiare metro a mezz'ora dalla fine. Ha interpretato male la gamba messa da Marchisio, ha fatto un errore clamoroso. Non c'è allora, di fronte a un dubbio del genere, dopodiché tu dici ci sono stati dei falli anche nei confronti di Suarez, anche nei confronti di Balotelli nei primi minuti, è evidente che erano dei falli da può darsi da ammonizione, non c'è dubbio. Ma però... è il metro che sì, ti dà. Ma l'arbitro non ha avuto l'impressione in quel caso di una gamba messa lì. Ci provano adesso. 0-0, 62esimo, traffico, poi torniamo. Questa cosa del traffico mi esalta, lo sai, Nogaro le Rocca, l'ho sentita tante volte da ascoltatore, mi gasa tantissimo. Tutti convocati. Vorrei andare subito da Pardo, che succede? Ma tutto è stato Stuani nell'Uruguay, fuori Alvaro Pereira, insomma è aumentato il peso offensivo della squadra. Adesso c'è possesso di palla sull'auto di sinistra con Cáceres che supera la linea di metà campo, tocca il pallone nella zona di Cristian Rodriguez che ha avuto la migliore occasione del secondo tempo per l'Uruguay, palla verso Suarez, la tiene lì sull'assalto di Barzagli, c'è anche il doppio di marcatore da parte di Verratti, lotta ancora nell'uno contro due, alla fine Pirlo recupera il pallone ma non ha l'uscita per andare subito verticale, allora Barzagli, ancora possesso per Verratti, siamo sempre sulla tre quarti, altro errore di Pirlo, il secondo in pochi minuti, quindi Bonucci che deve rimediare Pirlo, terzo errore di Pirlo nel giro di due minuti, è in difficoltà, è improvvisamente in affanno Pirlo, sarà rimesso laterale per l'Uruguay, 64 minuti, 20 secondi, palla che viene allontanata da Bonucci, stai tranquillo Barisoni, buona per Pirlo, che cerca il tocco verticale verso Immobile, palla profonda verso Immobile, che prova, uno contro due, aspetta i rinforzi, arriva soltanto Parolo, difende il pallone ancora Immobile sulla pressione da parte di José Jiménez, palla buona ancora per il possibile piazzato di Pirlo che prova alto. Ha provato Pirlo, ma abbiamo bisogno di questa soluzione, abbiamo bisogno della qualità di impostazione di Pirlo e Verratti per andare a cercare Immobile che adesso ovviamente è solissimo. Allora, rimane la mia impressione, cioè un'Italia che, l'impressione che ho avuto subito, un'Italia che si è consegnata all'Uruguay con un cambio incomprensibile di Prandelli. Poi ci si è messa la Meglio avere adesso Immobile, meglio la situazione di adesso che non quella prima del cambio. Beh, adesso meglio con Immobile, un contropiedista, Parolo comunque. Immobile un uomo non sta strusciando pallone, ragazzi. Immobile non sta strusciando pallone. Attenzione all'Uruguay, Dario Ricci. Miracolo di Gigi Buffon, Cavani per Suarez che dall'altezza del dischetto anche più avanti calcia di destra, porta sicura, miracolo di Buffon che poi ha alzato il pugno e ha caricato tutta la squadra. Beh, adesso mettiamo giù le trincee. Siamo ancora in questo mondiale grazie a questa parata di Gigi Buffon, calcio d'angolo per l'Uruguay, parata prodigiosa di Gigi Buffon. Anche per un po' di fortuna, però va bene così. Suarez, ancora Buffon col pugno che respinge, il capitano si sta prendendo sulle spalle tutta la squadra e in questo momento chiaramente saltati tutti gli schemi bisogna cercare di congelare il pallone, tenerlo lontano dall'area dei rigori, si prova ora Immobile che viene però anticipato da Maxi Pereira, riparte l'Uruguay ancora con Suani e poi sulla destra troviamo Rodriguez che punta a Decidio, prova lo scatto ora per Maxi Pereira, il cross dal fondo e fortunatamente sul fondo, rimessa, sarà rimessa per Gigi Buffon quando è il 67esimo del gioco, Italia 0, Uruguay 0. E adesso che fai? Adesso non possiamo chiuderci in difesa, esatto, perché in questo modo, perché io non voglio portare, se no non conduco più, però rischiamo di prendere il gol. Occorre l'unica azione che abbiamo visto prima, Pirlo, Immobile, quella roba lì serve per mettergli un po' di paura, e sfruttare un eventuale contropiede. Non ti puoi consegnare in questo modo all'Uruguay. Adesso al gli dici per 20 minuti tiraci palloni addosso, perché non hai nessuna possibilità di andare di là e fargli male. In questo momento ciò che stiamo comunicando all'Uruguay è esattamente questo: siamo in 10, siamo disperati, facciamo fatica, anche i nostri due migliori giocatori, cioè Pirlo e Verratti, non riescono più a controllare ritmo e pallone, e dunque questi qui adesso sono una marea. Sì, ma io sto dando un'occhiata alla panchina, sinceramente faccio fatica a trovare qualcuno che in questo momento potrebbe cambiarla tatticamente per noi. Forse Cerci, forse. Pierre, che succede? Immobile chiuso purtroppo, palla in calcio d'angolo comunque per l'Italia. Non sono affatto d'accordo col mio amico Centa, c'è una partita che noi non ci siamo abbassati, adesso abbiamo avuto il problema dell'espulsione, la partita assolutamente era 0-0 fino a questo momento, negli ultimi minuti abbiamo sofferto un po' di più, dobbiamo riuscire a ripartire con la qualità di Pirlo e Verratti per provare soluzioni. Era buona questa, era buona, perché abbiamo bisogno di calci piazzati per cercare il jolly, soprattutto abbiamo bisogno di alleggerire la pressione, perché come dice giustamente Carlo, non possiamo concedergli 25 minuti nella nostra area di rigore, però non ci eravamo abbassati, dai, adesso calcio d'angolo, seguiamo tutti assieme, accanto a me c'è anche signori del giornale, facciamo gol signori? Adesso no, dopo sì, perfetto, Pirlo, punto di battuta, calcio d'angolo, palla profonda, Chiellini che viene anticipato dall'intervento in anticipo da parte di Suani, palla buona ancora per l'Uruguay che prova a ripartire, la controlla per un attimo da Sceglio con il petto, sarà rimessa laterale, è pronto Maxi Pereira, palla controllata ancora dagli uruguayani che possono lavorare il pallone, il minuto in 69, sempre 0-0 qui a Natal con il petto Cassano campo, palla buona per Verratti, quindi ancora il tocco nella zona di Parolo, ancora verso Verratti, si propone Immobile, Verratti palla per Immobile, fuori gioco c'è tutto, c'è tutto. Pierluigi, chi si sta mettendo i parastinchi in questo momento? Sì, Antonio Cassano. Sì. Antonio Cassano, sì. Ci sta. Secondo me toglie Immobile, pensate. Fuori gioco c'è tutto? No, se toglie Immobile è incomprensibile. Secondo me toglie anche Immobile, perché i primi tre palloni che gli è andato giù in profondità, in verticale, toglie? A me è piaciuto Immobile. Verratti. Sì, potrebbe togliere Verratti, perché Verratti mi sembra stia comunque leggermente calando. Immobile, la strategia è chiara: confondere gli uruguayani. Sì. Questi non sanno più dove andare. Questi non sanno più dove andare. Attenzione ancora all'Uruguay che ci prova con un cross dentro all'area, in the box, palla respinta. Luisa da Roma, buonasera. È un momento concitato. Siamo tranquilli. Ha ottenuto questa impressione. No, io in realtà ascolto voi, non sono davanti alla televisione, volevo dirvi solo che è un peccato che io sia a Roma e non a Milano, perché se vivessi a Milano sarei già là sotto con le birre, perché voi siete il gruppo con cui vedere questa partita oggi. Ci veniva da solo, anche noi il dopo partita. Anche il dopo partita, fino alle 9 siamo qui, no, quindi capito, come sempre gente non coglie. Beh, non coglie, un po' più senso. Ma lui è sulla partita, glielo spieghi, eh? Vabbè, si occupa di sport, cosa dovete fare? Sì, cioè, ma va a sapere, vai. Grazie Luisa, grazie. Ciao. Cristoforo Salerno. Buonasera. Che sta facendo? Nulla, ora sono tornato a casa. Prima avevo chiamato mentre ero. Era ancora a Roma? Sei un tifoso della Salernitana? No, sto a Salerno. Che dice, soffre? Non mi pare che stia soffrendo particolarmente. No, io ho preferito ascoltare voi per radio, perché per televisione le partite mi addormentano, vi dico la verità. Preferisco lo stadio. Andare in Brasile è troppo costoso, quindi. Cassano al posto di Immobile. Esce Immobile adesso l'Uruguay è in difficoltà perché non capisce più, ragazzi. No, però io questo fare non lo capisco. Allora, Pier, ragguagliaci, illuminaci. Poi ditemi che non è paura, eh? Tenere palla e guadagnare punizioni. Sì, ma se tu non aperto, tenetevi aperto, potrei diventare molesto, ma tenetevi sempre aperto, Piantanina, perché il momento è delicato. Comunque, Cazzano per Immobile, è chiaro, non è il ruolo suo, la prima punta, però se c'è una cosa nella quale è bravo è tenere palla, prendersi falli, e credo che questa sia l'idea di Prandelli. Mentre sbaglia Chiellini, possesso ancora per i nostri avversari, con il tocco verticale, non lo prende Rodriguez, finisce in out, rimessa Italia, scusate chi ho interrotto. Nessuno. Abbiamo parlato già del fatto che siamo dei sex symbol, per cui chiamano tutte. No, parlavamo dello studio milanese, non t'allarga, Pardo, era riferito a chi è qui. Ma che c'entra? Ma scusate, ma io non parlo di me, semmai di Ricci. Ricci straordinario, lo vedo anche da qui, tre file più avanti. Noto sex symbol. Anche lui con satellite, va bene. Jimenez riparte l'Uruguay con il possesso di palla ancora di Maxi Pereira, che difende il pallone sulla linea di metà campo. C'è Parolo in pressione su di lui. Ancora dentro passaggio verso Jimenez. È lunga, ragazzi. Ma soprattutto è lunga, ma Immobile forse un. Ma non potevamo occuparci di bocce, non potevamo fare giardinaggio, non potevamo fare bricolage, fai da te, passavamo dei pomeriggi tranquilli, una sana attività sessuale, ovviamente nei limiti della norma, insomma, facevamo una vita serena, tranquilla, al limite del mercato azionario con Barisoni. Sì, non ma anche facendo attività sessuale con il mercato azionario. Dirlo, Parolo viene fermato, ancora il possesso per De Sciglio, solo per un attimo arriva Rios, altra giocata verticale, stai tranquillo Barisoni, tocco profondo, è nostra, rassicura i mercati Barisoni, rassicura. Sì, 72-27 secondi, manca cioè, un'esistenza. Manca un'esistenza. Mancano 23-24 abbiamo... tutti insieme. E non mi sembra che là davanti ci siano soluzioni possibili, lo dico con tutto, lo sai che sono un cassaniano, meno cassaniano di te, ma sono un cassaniano, mi sembra che non abbiamo nessuna possibilità di essere pericolosi, poi magari verrò smentito, speriamo che io venga smentito in 5 minuti. Non abbiamo prima... senza Immobile, senza Balotelli, non abbiamo alcuna possibilità di essere pericolosi. Ma poi non capisco, a Immobile devi giocarla in contropiede l'ultima mezz'ora. Le prime tre volte a me sembra che Immobile sia andato bello cattivo, guarda, deciso sul pallone in verticale, ha tirato sulla squadra. Io non lo so. Adesso c'è anche Verratti che si è fatto male. Bisogna sempre soffrire. C'è anche Verratti che si è fatto male, vediamo. Sì, atteggiamento pessimo dell'arbitro, Carlo, anche lì con quel ditino sull'orologio, come dire tranquilli, recupero tutto. Vabbè. Botta, una botta bene, sulla caviglia destra di Verratti, anche i crampi a quanto. Ma di dov'è quest'arbitro? Messicano. Marco Antonio Rodriguez Moreno. Gianni, provincia di Milano, buongiorno, buonasera, buonanotte. 800 24 00 24. I messicani hanno una grande tradizione, Dica Gianni. Sì, buonasera, niente, sono buonasera. In autostrada. No, diteci qualcosa sull'arbitro, su, dai. L'arbitro, ecco che arriva il terzo cambio. Sulla testa cosa c'ha? C'è qualcosa, mi sembra, corna? No, non lo so. Sombrero. Siamo veramente all'altra, io non sentivo queste cose dagli anni 80. Comunque Verratti non ce la fa, mi dica chi c'è in autostrada. Allora, c'è qualcuno in autostrada? Sì, c'è qualcuno, proprio rado, dato l'orario sembra quasi una giornata di agosto, praticamente Ferragosto alle però qua purtroppo Carlo Gente deve dare un aggiornamento, perché devo dare un aggiornamento perché entra Thiago Motta al posto di Verratti che non ce la fa, ed è un'Italia che è sempre più squinternata. L'unica soluzione giusta è questa, però. Sì, ho capito, Giuseppe, ma ti sei messo nelle condizioni di disegnare una squadra totalmente squinternata a questo punto. Quinani come alternativa, ma evidentemente si fida di più di Thiago Motta. Abbiamo una squadra di gente che controlla il pallone. Abbiamo una squadra poco dinamica, ma di gente che controlla il pallone. Vorrei sentire anche Ricci su questo, Dario. Dario Ricci, eccolo, è tornato, sì. Eccoci, è entrato Thiago Motta, chiaramente situazione quanto mai d'emergenza, ma quantomeno, come diceva Pier, ci aiuterà a conservare il pallone. In quello che è l'ultimo quarto d'ora, Cruciani resta, non se ne andare, perché questo è il quarto d'ora che escono dal campo i calciatori ma entrano gli uomini. Sarà un quarto d'ora veramente tra l'inferno e il paradiso, sì, a Natale, incredibile. L'Uruguay si fa avanti intanto con Godin, poi sulla destra Gonzalez, sulla tre quarti chiude Parolo, il cross sul secondo palo, Barzagli splendido, e poi Darmian a liberare. Sta a sottolineare la partita che Barzagli, Chiellini e Bonucci stanno facendo. No, niente da dire sulla difesa, niente da dire sulla difesa. Era effettivamente un faccia a faccia. La difesa nostra sta reggendo più che bene, meno male visto quello che è successo in attacco. Ragione. In centrocampo. Confronto diretto tra due grandi attaccanti, Chiellini e Bonucci, con Barzagli a chiudere. E fino a qui 75 e 52 di gioco. Io dico che Cavani e Suarez hanno fatto il minimo. E come mai, secondo te? La borsa. C'è la borsa. C'è la borsa. Sì, c'è la borsa. 19:30. Zancanel veloce, rapida. Pierluigi Pardo. Gol dell'Uruguay, diciamolo subito, dai. Ma è tutto scontato, è tutto scritto. È tutto scritto, caro mio, è tutto scritto, purtroppo. Ti sei consegnato mani e piedi. Te l'ho detto prima. Allora, un brevissimo riepilogo. Morso di Balotelli. Morso di Suarez. È successo di tutto. Allora, i fatti sono questi: c'è stato innanzitutto Suarez, vantaggio 1-0, gol di Godin. Gol di Godin su azione di calcio d'angolo. Due minuti fa c'è stato Suarez che l'ha rifatto, cioè ha morsicato Chiellini in un confronto in area di rigore. Chiellini ha sbracciato, Suarez si è buttato per terra toccandosi la faccia. Ovviamente doveva essere espulso, non è stato espulso. Non so se è stato morsicato. È stato morsicato. Gli ha fatto vedere il segno sulla spalla. E poi questo calcio d'angolo, stavamo soffrendo come all'inferno, questo calcio d'angolo battuto dalla destra e Godin, che è un gran saltatore, l'ha picchiata. Ragazzi, dentro. Se saremo eliminati ci sarà Prandelli, cercheranno tutti di trovare l'alibi, l'espulsione. No, Marco Antonio Rodriguez Moreno ha condizionato questa partita. Non c'è dubbio. Dovevamo stare in 11 contro 10, noi. Guarda Giovanni, Poi dopo parliamo di Prandelli. Io non so se l'ha condizionata di più Luis Moreno e quant'altro from Messico o più Cesare Prandelli con la gestione di questa partita. No, che ma però non si possono vedere due errori come questi in una partita di questa importanza. Il morso non lo poteva vedere. Il morso, ma il come fai a vedere il morso? No, poteva vedere. Pier? Sì. Dicami. Calcio di punizione per l'Italia. Adesso le poche possibilità che abbiamo ovviamente sono la calcio piazzato. Pirlo sul punto di battuta. Bisogna crederci, ci vuole anche, diciamo, l'imponderabile dalla nostra parte. Certo, Suarez è recidivo, ricorderete che aveva dato un morso a Ivanovic. 10 giornate di squalifica in Premier League. Pirlo Liverpool Chelsea. Pirlo sul punto di battuta. È una delle ultime possibilità che abbiamo. È il minuto 84. C'è l'Uruguay che si sistema, ovviamente senza nessuna fretta. L'arbitro con lo spray, ecco là, metti lo spray, va. Pirlo pronto sul punto di battuta, Chiellini a dar fastidio alla barriera 2 dell'Uruguay. È pronto ad andare a cercare la deviazione della storia. Dentro ci sono Thiago Motta, Parolo, anche Barzagli e poi anche Bonucci. Intanto succede qualcosa dalle parti della nostra panchina, espulso qualcuno. Bravissimi, bravo signor quarto uomo, che bello, fare il pazioso. Ha espulso qualcuno, va bene, adesso sì, è un accompagnatore. Sì, accompagnatore, sì. È pronto Pirlo. 84-10. Siamo appesi a un filo. Dai, Pirlo, bravo Pirlo, largo. Quell'altro largo di 3 metri, ma ha dato l'illusione del gol. Però c'è deviazione, è una buona notizia. Antonio sul punto di battuta, palla verso Pirlo, ancora Cassano che si propone. Cassano 1-1, fai una cosa buona, Antonio. Costretto a indietreggiare, vince comunque il duello. Ancora Cassano, tre quarti di campo, prova la battuta profonda sul secondo palo. Allontana Godin, Parolo in qualche modo, possibilità per la ripartenza dell'Uruguay. Occhio ovviamente resta anche al contropiede, Cavani, possibilità per 1-1. Darmian deve chiudere, attenzione alla giocata verticale, deve andare a chiudere. Sceglie lì, c'è Suarez dall'altra parte, De Sciglio, 1-2, pronto a questa situazione De Sciglio. E allora ricominciamo con Thiago Motta in possesso di palla, 85 sul cronometro, dietro a fare il TG5, amici, qua la situazione è complicata. Poi Thiago Motta, no, fra qualche minuto, palla buona per Parolo, Thiago Motta che si propone, c'è anche Pirlo che si fa vedere a sostegno, Cassano più avanzato, Chiellini, prende il pallone, cerchio di centrocampo, il tocco verso Barzagli, improvvisamente però l'Italia con la disperazione adesso prova ad attaccare, Pirlo messo giù, si gioca, vantaggio. Chiellini con l'apertura verso De Sciglio che manda il pallone, si fa vedere Cassano che cerca la giocata verticale, ancora per De Sciglio, buona idea, Crofi De Sciglio, Muslera ha controllato il pallone. Siamo a 4 minuti e mezzo più recupero dalla via al mondiale. Sì. No, bisogna crederci, anche se quelli della Celeste cantano e fanno benissimo, perché per il piccolo paese del Sud America questa ovviamente è un'ennesima impresa da festeggiare. festeggiare. Guarda, questa è molto difficile crederci. Possiamo utilizzare gli amuleti o buttarci sulla scaramanzia, su quello che volete, ma guardando questa partita in questo momento è impossibile credere che l'Italia faccia un gol. Non dava la sensazione di poterlo fare prima. C'è Cassano che prova una combinazione con... prova una combinazione con Thiago Motta, ma fino a che provi le combinazioni con Thiago Motta non vai da nessuna parte. Quindi Pier, io continuo a pensare che Prandelli ci abbia consegnato all'Uruguay. Sarò spietato in questa considerazione, ma è così. 4 minuti e poi facciamo tutti i processi e siamo sì, pronti. C'è anche un po' di gossip. Possesso e pallone recuperato dall'Italia, che manovra nel cerchio di centrocampo, ancora con De Sciglio, è buona l'apertura nella zona di Pirlo, che la mette giù bene, possibilità per una contro uno, si propone dentro Cassano, palla per lui, la tiene Cassano, ancora palla alla porta, c'è la pressione di Godin, prova la magia Cassano, Godizio di lui a Corcos, in qualche modo arriva però a allontanare Rios, quindi ancora la caccia del pallone Parolo, pallone controllato dall'Uruguay, passato via in qualche modo cercando Cavani, l'anticipo da parte di Barzagli, finisce in out, io devo uscire per un attimo perché c'è. Vai avanti tu Carlo, vai. Benissimo, abbiamo anche Dario Ricci. Dario. Eccoci, rimessa laterale per l'Uruguay con Caceres, il cronometro recita 87 e 12 secondi, mancano poco meno di 3 minuti di un recupero alla fine del nostro mondiale, ma ancora l'Italia che lotta, Barzagli, anzi no, Bonucci respinge ancora il fallo laterale, Uruguay che chiaramente se la prendono comoda a rimettere il pallone in gioco, ancora fallo laterale per Caceres. Ancora, ecco, riparte il pallone verso Suarez, anticipato da Bonucci, Chiellini di petto per Thiago Motta nel cerchio di centrocampo, prova a cercare spazio sulla sinistra, si propone De Sciglio in profondità, Thiago sceglie Pirlo che ora avanza sulla tre quarti destra, appoggia su Cassano mentre entra Darmian in area, Cassano sulla linea di fondo, bel dribbling, ancora Cassano però chiuso da Revalo Rios che prova a liberare Barzagli, la spinta di Cavani e Morano, non vede neanche questa ragazza, e allora il contropiede Suarez 3 contro 1. Beh, insomma questa è la palese, lo chiude Bonucci, siamo ancora nel mondiale, Suarez prova il dribbling, ci riesce, libera il limite dell'area, chiude ancora Eroico Darmian, possiamo ripartire con Andrea Pirlo, sopra il centrocampo Chiellini, Cassano suggerisce l'appoggio e ora con questa palla sulla destra l'appoggio ancora al centro per Parolo che si propone e poi dall'altro lato sale Darmian, ma chiaramente Azzurri ormai alle corde con pochissima energia anche per proporre quest'ultimo attacco, ci proviamo però ancora con Cassano al limite di area a sinistra, scende De Sciglio, il cross dal fondo sull'altro lato, c'è Darmian, libera Caceres, peccato. Controllo difficile di Darmian, ma 89 minuti, ancora è Gigi Buffone che sale al centrocampo e appoggia su Andrea Pirlo, Thiago Motta sulla tre quarti, si apre sulla sinistra ora per De Sciglio, contratto da Gaston Ramirez, ancora su Thiago Motta, Pirlo gli sta davanti qualche metro a suggerire il passaggio, ecco Cassano che cerca un suggerimento per Pirlo, esausto, non ci arriva, anticipato ancora da Gaston Ramirez, il rilancio della difesa uruguayana in fallo laterale, 30 secondi al novantesimo, adesso vediamo quanti minuti di recupero verranno, concessi, almeno 3. Almeno 3 minuti, però allora so che cominceremo dalle 20 a parlare di arbitro che ci ha buttato fuori dal mondiale. Sentiamo, vai. De Sciglio, il cross al centro, libera ancora Caceres. C'è stato un buon passaggio filtrante di Cassano, anticipati però due azzurri che stanno proposti. 5 minuti. Moreno fischia il fallo, 5 minuti di recupero. Vediamo se con la forza della disperazione riusciamo a costruire un'azione, costruire un'opportunità in questi 5 minuti. Tutta la panchina azzurra è in piedi, o meglio De Rossi, Cerci, Aquilani, Prandelli sui bordi dell'area tecnica e ancora Godin che parla con Moreno e il gioco non riparte ancora, Muslera con tutta la calma di questo mondo ed è anche giusto così dal punto di vista degli uruguayani. Sì, però ecco, ammonizione di Moreno per Muslera che continua il suo comizio. Staremo a vedere, speriamo che possa recuperare dei 5 minuti ne abbiamo già perso. Ma 50 se dovesse, secondi dovesse finire così, l'unica consolazione è che rivedendo le immagini del morso di Suarez a Chiellini, che il mondiale di Suarez finisce oggi. Chi se ne importa? Consolazione, anzi peggio. Sì, ha fatto anche sta smorfia dopo per giustificare, tenendosi i denti davanti. Comunque andiamo con gli ultimi minuti, toglie al mondiale un protagonista. No, toglie al mondiale un coglione, cioè più che altro. Cioè, in questo caso, toglie al mondiale un coglione. Ma non è neanche la prima volta, sappiamo bene. Ma in questo caso si è dimostrato un coglione. Il vero problema è che dovevi espellere a quel punto Suarez. Chiellini si sposta in posizione di Chiellini si sposta in posizione di centravanti per sfruttare qualche traversone, ci prova Andrea Pirlo che allarga sulla sinistra ancora per Cecilio, siamo al limite sinistro dell'area di rigore, Pirlo appoggia per Thiago Motta e scambia di due, la palla ancora allo Juventino, Pirlo al limite dell'area per Cecilio che con le ultime energie riesce a crossare ma chiudono ancora i difensori uruguaggi, peccato, era un buon cross verso terra e ora ecco Lucci a conquistare il pallone, Suarez si butta a terra e continua nella sua indegna sceneggiata, Moreno questa volta non ci crede, va avanti Parolo, si porta il pallone ancora sulla sinistra, Cassano prova a contrastare ma arriva Rodriguez che rilancia ancora verso Suarez, può partire il contropiede degli uruguayani con Gastón Ramírez, si è fatto male con quel calcio d'angolo intuccato, o meglio col filo di spalla da Godin a beffare Buffon, e Cavani ora sulla sinistra del fronte d'attacco uruguayano chiuso da Barzagli, ma a buon gioco facile aprire sulla destra per Suarez, ora De Sciglio che ritorna sull'attaccante del Liverpool, il pallone che passa ora a Suani che cambia ancora con Suarez, prova il lancio profondità, respinge De Sciglio, azzurri sulle gambe, non riescono più a inseguire l'uomo. 2:30 il gioco ancora. Entra, ecco, chiude Bonucci ancora una volta, abbiamo la forza di ripartire, la forza della disperazione, palla a Cavani. Parla Cassano, scusate, il rilancio di Rodriguez, prende De Sciglio il pallone, De Sciglio praticamente bloccato sulle gambe, ci proviamo ancora con Thiago Motta nel cerchio di centrocampo, Andrea Pirlo. Legge centrocampo, ma Pirlo. Alla fine mi dite quanti tiri in porta ha fatto l'Italia. Ma quello è problema, stiamo palleggiando al centrocampo. Ancora Thiago Motta per De Sciglio, chiuso il pallo laterale da Suani, siamo alla testa della tre quarti uruguayana. De Sciglio, Chiellini ancora con le ultime energie per 1:40 alla fine dei 5 di recupero. Parolo difende il pallone, Maxi Pereira rilancia ma riusciamo a recuperare la palla ancora con Thiago Motta che controlla sulla tre quarti e suggerisce per Pirlo. Suani però svirgola, sembrava potesse recuperarlo il pallone Parolo ma non ce la facciamo, ancora Gastón Dinés che si è messo nella tre quarti difensiva, lancia Cavani, ma perché non mettono la palla dentro? Non capisco, dentro l'area perché non c'è nessuno, a chi la dà, chi buttassero tutti, si perde 1-0. Thiago Motta a centrocampo ancora su Pirlo, proviamo a conquistare metri con Pirlo che conquista d'astuzia un pallo, Gonzalez, siamo sulla tre quarti, pallone su Pirlo che appoggia su Cassano, l'ultima occasione, il cross al centro, la respinta di Godin insuperabile di testa e poi riparte l'Uruguay con Suarez, Bonucci prova visto che Buffon era uscito dalla porta, Suarez prova a calciare direttamente in porta, pallone sul fondo, 35 secondi. Thiago Motta ancora nel cerchio di centrocampo, tutti avanti, gli azzurri cercano di suggerire un lancio, una possibilità, ci prova Pirlo, Maxi Pereira, punizione, calcio di punizione per l'Italia, sembrava il fischio finale e gli uruguayani erano già pronti a entrare in campo, ultima occasione, dai, dentro tutti, in area di rigore, punizione dalla tre quarti di Andrea Pirlo, salgono tutti, sale anche Gigi Buffon sul palo più lontano, Gastón Ramírez va a marcarlo, Suarez non rispetta la distanza ma a questo punto è un particolare, ci prova a dirlo proprio su Buffon, Godin stranamente la tiene in gioco questa palla, va a Barzagli a difendere, Parolo la riconquista e Buffon rimane in attacco, giochiamo come nell'hockey col portiere volante ma è inevitabile in questo momento, bravo Parolo che prova a salvare il pallone che finisce in fallo laterale, aspettiamo solo il tiro di Moreno, a questo punto Buffon non ha neanche la forza di ritornare verso la porta, rimane addirittura in attacco ed è con questa scena quasi grottesca che si sta per chiudere questa partita, che è stata commedia, tragedia, farsa, e che alla fine premia l'Uruguay con il gol all'ottantesimo di Godin. Ma aspettiamo gli ultimi secondi, Moreno ha già il fischietto sulle labbra, fischia in questo momento Uruguay 1 Italia 0, siamo fuori da Brasile 2014. Domani ore 17:45 c'è l'aereo per tornare in Italia. Chissà dopo... se con un CT o senza. Io credo senza, e sarebbe giusto così. Sarebbe giusto così. Perché in questo mondiale Prandelli non ha capito nulla. Adesso è ufficiale, possiamo dirlo. Possiamo dire una cosa, che sul giudizio di questa partita non può non pesare l'arbitro. Siamo perché d'accordo. Due episodi condizionanti. Però uno poi, soprattutto però uno. Poi, uno. Però poi. Il secondo è... Eh beh, il secondo ti avrebbe lasciato in 10 l'Uruguay, sì. Sullo 0-0 cambiano tante cose. Tra l'altro, se non sbaglio, è proprio nell'azione del calcio d'angolo. L'eliminazione dell'Italia è strameritata. Detto questo. Siamo stati meritatamente eliminati da Brasile 2014. Perché innanzitutto, primo, se tu perdi contro il Costa Rica, nella maggior parte dei casi è giusto che tu esci dal mondiale. Stiamo parlando di Italia e Costa Rica. Ha perso anche l'Uruguay con la Costa Rica. L'Uruguay non ha il peso mondiale che ha l'Italia, diciamo la verità. Cioè, questa è la realtà. Non ha il peso mondiale che ha l'Italia. Perdere col Costa Rica ci può stare per l'Uruguay, non ci può stare per l'Italia, soprattutto da una vittoria come quella con l'Inghilterra. Per cui questa è la prima cosa. Seconda cosa, la gestione di Prandelli complessiva di questo mondiale è stata confusionaria a dir poco, messaggi di confusione mandati sì, alla squadra. Te ne posso aggiungere un'altra, sì. Che è questa: lui si è legato mani e piedi a Balotelli, ne abbiamo parlato tante volte, Carlo, quest'inverno. Benissimo. Siamo arrivati qui e bene. Oggi 24 giugno. Perfetto. Abbiamo la conferma, allora, che Balotelli non è l'uomo che può tenersi sulle spalle, non mi interessa, Balotelli non è l'uomo che si può tenere sulle spalle questa nazionale. No, ma abbiamo messo la conferma, ma questo vuol dire che è stato l'errore, questo è stato l'errore iniziale, perché da un anno Prandelli ha costruito questa nazionale su Balotelli. Sì. Salvo un po' ripensarci, sì, ma verso la fine. Il problema è che poi due gol, uno dei quali Balotelli. Sì, dopodiché nella partita decisiva a un certo punto ti sei privato dell'uomo su cui hai puntato. Certo, e ti sei consegnato agli avversari. Va bene, pubblicità, poi torniamo, abbiamo ancora un'ora per discutere. 800 24 00 24, numero verde. Allora, siamo a casa dal mondiale, l'Uruguay vince 1-0 con il gol nel finale di Godin. Sentiamo Prandelli, sta parlando con Sky in diretta. Sono stati contrasti duri. Niente, non riusciremo mai a collegare questo televisore. Duri, come dicevo, ma non da rossi. Una partita molto equilibrata, loro non l'avevano mai tirato in porta, loro dovevano vincere, noi cercavamo l'azione per andare a far gol. Una partita molto equilibrata, una bella partita anche tatticamente, e secondo me l'arbitro l'ha rovinata. Non puoi dare un rosso a una partita del genere, assolutamente no. Tu non l'hai visto, Chiellini è uscito facendo il gesto delle manette al delegato della FIFA per spiegare questa situazione. A livello invece di quanto visto in campo, lasciando stare l'arbitro, cosa non avete fatto per restare in questo mondiale? Abbiamo sbagliato la partita con Costa Rica, perché la prima l'abbiamo fatta bene, la seconda male, e la terza ce la siamo giocata contro un grande Uruguay. Due attaccanti più forti al mondo, non hanno mai creato problemi, quindi la partita l'avevamo preparata bene. Dispiace uscire così perché, ripeto, in una gara, un campionato del mondo, l'arbitro non può con questa facilità tirare fuori il rosso, assolutamente no. Balotelli, secondo te, ha fatto tutto quello che poteva? Ci ha colpito molto la sostituzione nell'intervallo. Balotelli non riesce mai a capire quando è calmo e quando è nervoso. Io lo consideravo... e lo considero un giocatore importante, ma che deve dare una garanzia di equilibrio. Fine primo tempo l'ho sostituito perché avevo paura di rimanere in 10. Cesare, un'ultima cosa, penserai al tuo futuro? Cambia le carte prestissimo, è anche inelegante chiedertelo adesso, però è una domanda da fare, ti chiedo scusa. Cambierà il tuo futuro questa eliminazione? Ma sai, lavori 4 anni, poi su un rosso metti in discussione tutto, ci può stare. Adesso faremo delle riflessioni e poi vi faremo sapere. Grazie Cesare, a voi. Vabbè, questo era Prandelli. 800 24 00 24 per i vostri commenti. Allora, è ufficialmente colpa dell'arbitro Sebastiano Barisoni, poi ha... Sì, no, questo è un po' il vizio nazionale del paese. Allora, diciamola tutta, è chiaro che se resti in 10 per una espulsione inesistente hai un problema, però questo per intanto anticipare quelle che saranno le polemiche dei prossimi giorni. Ha contato più Moreno, più Balotelli o più Prandelli e quindi anche Balotelli. Beh, è chiaro che anche prima dell'espulsione e dopo, a me quello che ha impressionato, è chiaro che giocava in 10, no? Però non abbiamo visto nessun tiro in porta. Allora uno potrebbe dire, a fronte di una partita in cui hai parecchi tiri in porta, traverse, parate importanti, se fossimo stati in 11 a quel punto avremmo segnato. Ma guardando una partita in cui tu resti in 10 ma comunque non hai tiri in porta, mi viene sospetto che certo che avremmo avuto qualche possibilità in più, certo che Suarez deve scomparire dal mondiale per il morso che ha dato, abbiamo visto il primo play, però sono mancati comunque i tiri in porta. E allora chiedo, con Costa Rica quanti ne hai visti di tiri in porta? Praticamente i primi tre Balotelli, l'unico Balotelli. Però Balotelli. Dico, allora attenzione a dire l'arbitro ha sbagliato tutto, ha sbagliato a espellere, ma ha sbagliato anche a non espellere Suarez. Attenzione però che la debolezza, e a me Prandelli non è piaciuto in questa dichiarazione, perché un CT dovrebbe comunque assumersi la responsabilità, i cambi che ha fatto nella formazione hanno confuso così tanto tutti noi che io speravo come battuta che confondessero anche l'Uruguay, perché nessuno ha più capito la logica di questa squadra. Diceva giustamente prima Giuseppe Cruciani, ma insomma scopri adesso che la difesa della Juve ti serve per reggere, che la cosa migliore che abbiamo visto oggi è stata la nostra difesa. Certamente. Per reggere una partita come questa lo scopri adesso. Allora anche Prandelli dovrebbe dire ho sbagliato tutto, ha fatto una mezza missione su Balotelli dicendo Balotelli non capisci mai quando è sotto controllo e quando è nervoso. Sì. Sei tu che hai organizzato una squadra però su vedi Balotelli. Adesso è quello che la gente vuole sentirsi dire, vuole sentirsi dire che è colpa dell'arbitro, che è colpa di Balotelli, no, io ti e sto che dicendo... è colpa del caldo contro la Costa Rica. Io ti sto dicendo, a parte che stiamo guardando su la internet spalla la spalla di Chiellini con il morso evidentissimo. Però detto questo, io sto facendo un ragionamento opposto, siccome so già che domani sarà lo sport nazionale, la gara a trovare la scusa che ci ha fatto perdere, e l'arbitro il primo, poi ci sarà Balotelli, poi ci sarà magari Immobile. Io dico no, attenzione, la confusione che si è vista è colpa in primo luogo di Prandelli. Se tu poi scopri che Balotelli è un giocatore immaturo, non lo puoi scoprire alla terza partita dei mondiali. All'intervallo, diciamo. Se ti rendi conto che la difesa della Juve è la migliore difesa che puoi schierare in campo, non te lo puoi accorgere l'ultima partita che hai nel giorno di qualificazione, e via così. E Cassano, che anche questa volta non si è capito cosa dovesse fare, ripeto, basta un giudizio, i tiri in porta inesistenti anche negli ultimi 20 minuti, diceva giustamente Giuseppe. Ma tirate, allora, tentatela. Luca Valdiserri, Corriere della Sera: più che il gruppo della morte è stato il gruppo della morte del calcio, che non è male. Claudio Cerasa: zero tiri in porta, attacco ridicolo, sopravvalutato, sostituzioni matte, l'arbitro non c'entra, l'Italia non ha giocato, merita di uscire. D'accordo, ma dire che d'accordo. L'arbitro non c'entra, però no, l'arbitro non mi c'entra, sembra, non si mi sembra dire, sinceramente dai. Ingeneroso. Poi dire tu lavori quattro anni, ma nel complesso dell'eliminazione non c'entra. Anni, arrivi qui e decide tutto l'arbitro, altrettanto la trovo una presa di posizione di Prandelli un po' paracula. Penso che fra qualche ora, sì, diciamo, a freddo, forse leggendo i giornali di domani, che credo saranno un po' più teneri di quello che abbiamo letto nell'ultimo mese nei confronti del CT e dei suoi frequenti cambi di idee, probabilmente anche Prandelli tirerà delle conclusioni differenti. Non credo che ci saranno i processi che subì Moreno dopo la partita Italia-Corea con Trapattoni. Moreno quello vero. Credo invece ci sarà molta più durezza, perché in fin dei conti poi il mondiale dell'Italia del 2002, a parte che passammo il primo turno eccetera, fummo eliminati agli ottavi di finale con una squadra formidabile, quell'Italia lì del 2002, non era stato un mondiale giocato male, soprattutto con non formazioni cambiate ogni tre secondi, non con confusioni tattiche come è stato questo mondiale. E questo è quello che disorienta di più, cioè tu puoi avere sfortuna, puoi prendere traverse, puoi avere parate improbabili, e ti espellono un giocatore e senza motivo, e va bene, però noi non abbiamo visto una partita in cui l'Italia ha avuto sfortuna, parliamoci chiaro, che sarebbe l'unica scusante per Prandelli. Non c'è stata nessuna sfortuna, nessun tiro che per poco ha mancato la porta, nessun tiro sulla traversa, nessun palo incredibile, nessuna palla che rimbalzava. Comunque, sulla riga del campo, cioè, io sono stato, visto l'Italia sono stato un gufo, ma poi... cazzo, Mick Jagger peggio ancora, Mick Jagger sì, sul palco, su Mick Jagger sul palco del Mick Jagger del... porta sfiga a questo punto, 2-1 e vincete il mondiale, ha scritto un ascoltatore, questa volta il push si è superato, sì, esatto. Se non ricordo male. comunque questa nazionale, perché qualche segnale c'era, dopo aver conquistato a settembre la qualificazione, la missione ai campionati mondiali, ha vinto una partita su 10, certo, quella con l'Inghilterra. E poi mi venite a raccontare che sono le amichevoli, a parte che tra le amichevoli, come noi le abbiamo interpretate, c'è stata anche quella partitina lì con l'Armenia che ci è costata questo girone, esattamente come c'è stata la partita con la Costa Rica che ci è costato tutto il resto. Però una partita su 10, qualche segnale c'era. E a maggior ragione hai continuato su quella stessa lunghezza d'onda, con la gestione di una squadra che è arrivata ad un mondiale senza sapere che faccia avesse. Cioè erano i giocatori i primi a non sapere quale faccia avesse. Allora, ci sono le prime dichiarazioni di Prandelli? Sì, le abbiamo sentite prima. Poi te le faccio sentire le altre. Carlo, io ti devo salutare. Dobbiamo fare anche lavoro, la riunione di redazione, che me ne vado a divertirmi. Una cosa va detta adesso: che brutto che è un mondiale quando esci così, perché poi tocca vederti il resto. Nel senso, per carità, è brutto per tanti motivi. È un mondiale bellissimo. Un mondiale in cui l'Italia non gioca, è un mondiale in cui. Insomma, senti, ma guarda, però, ti scende la poesia, ti scende la libido. Ti scende la libido, ti scende la poesia, ti scende la catena, insomma, ti scende tutto. E qui mi fermo perché siamo ancora in fascia protetta. Comunque, insomma, innegabile che l'Italia ha in buona parte meritato di non esserci. Questo insomma è l'unico titolo possibile. Poi possiamo sicuramente l'arbitro sbagliato, ma insomma non si può arrivare all'ultima partita senza un attacco. Dovevi fare un 1-0 nel primo tempo e allora poi te la giocavi anche con l'espulsione. Questa era un'Italia che volevamo vedere con l'Uruguay, e ha ragione Giuseppe, con la Costa Rica. Ma di cosa stiamo parlando? Faceva caldo, adesso farà ancora più caldo, vedrai quando rientrano. Però grazie a tutti, buona diretta. Grazie Sebastiano, ne approfittiamo per fermarci alla pubblicità e poi cominciamo a sentire l'umore che già immagino degli ascoltatori. 800 24 00 24, tutti convocati. Parla Chiellini, morsicato con Sky. Partita in condizioni molto difficili. Oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto una partita ordinata senza mai rischiare, dove si è vista una squadra con le qualità che contraddistinguono in Italia, una buona organizzazione, un buon possesso palla, una squadra che non è mai andata in sofferenza. È chiaro che poi dal 60esimo in poi la partita cambia, abbiamo sofferto, abbiamo tenuto il campo finché abbiamo potuto e siamo stati puniti purtroppo da un calcio piazzato. Un'ultima cosa, Prandelli prima ci ha lasciato con questa frase a proposito del suo futuro: vediamo. Secondo te bisogna ripartire da Prandelli? Te lo chiedo proprio a caldo. Sì, secondo me sì, però a caldo è normale che i commenti siano questi. Adesso non è il momento di prendere decisioni e di pensare al futuro, ma bisogna sbollire la rabbia che è tanto. Grazie Giorgio, a voi. Sì, sbollire la rabbia, però intanto resta la sensazione di fondo. Intanto ho rivisto più di una volta il fallo che ha costato l'espulsione a Marchisio. No. Sì. No. Eccessiva. No. Beh, insomma, riguardiamola. Sì, è entrato con la suola. Allora, si deve valutare Sotto il ginocchio dell'avversario. Si deve valutare un'altra cosa. Non si deve valutare fallo da espulsione o no, perché è evidente che non è un fallo da espulsione. La valutazione non è sul fallo, che non è, ripeto, da espulsione, è su quello che ha visto l'arbitro. L'arbitro cosa vede? Vede la gamba tesa a martello, il piede destro, se non mi sbaglio, di Marchisio, a martello sulla coscia. Sul polpaccio, sotto il ginocchio. Ma arriva in ritardo, non trova il pallone e gli dà un calcio. Sì, la valutazione nel complesso è sbagliata, ma in tempo reale quella gamba messa lì può aver tratto in inganno l'arbitro. Io dico solo questo. Se uno non vuole pensare male, dopodiché il morso di coso, l'arbitro non lo può vedere. Rivedendo e ripensando al minuto che è trascorso con Chiellini che protestava, faceva vedere i segni del morso, mi è venuto in mente che 8 anni dopo la finale di Berlino siamo tornati indietro. Allora qualcuno, guardando la TV, aveva spiegato ad Elizondo che c'era stata la testata di Zidane a Materazzi. Oggi probabilmente ci fosse stato qualcuno evidente. Beh, ma in televisione insomma è stato abbastanza chiaro al secondo replay che era successo qualcosa e che quella di Chiellini non era scena. Tant'è vero che vedrete che Suarez ha chiuso qui il suo mondiale e lo faranno attraverso la prova TV. Questo era il mondiale della rivoluzione tecnologica. Ma è evidente che Suarez, se sono. Poi bisogna valutare le immagini, se riescono a dare. Perché la FIFA è una cosa diversa dal campionato italiano. Nel campionato italiano sarebbe stato squalificato 6-7 giornate. Giuseppe, Graziano Cesari. Graziano, ciao amico mio. Ragazzi, buonasera. Ciao caro. Allora, ciao. Adesso cominciamo a dire che è colpa dell'arbitro, che tra l'altro si chiamava Moreno. Secondo te no, è colpa sua? Non dico che non è colpa dell'arbitro, non dico che è la colpa dell'arbitro. Devo dire che l'arbitro è compartecipe di quello che è stata la prestazione assolutamente negativa, pessima dal punto di vista dell'arbitraggio. E non mi limito certamente al morso di Suarez, ma voglio dire l'espulsione di Marchisio, a rigore che ci stava per l'Uruguay. Però se un arbitro è corretto, se un arbitro è dei migliori, se un arbitro è superiore a tutti gli altri, non può in una partita decisiva commettere una sequenza di errori così determinanti ai fini del risultato. Però scusami Graziano, andiamo per ordine, la questione Marchisio. Allora, rivedendo ovviamente le immagini, il fallo da espulsione non c'è. Però in tempo reale... Lasciami dire perché. Sì. Allora, perché innanzitutto la gamba non è tesa, ma è una gamba che va quasi a squadra. La scarpetta va a strisciare la gamba e non a colpire direttamente, e Marchisio si ritrae quasi da questo gesto. Non è un gesto di colpire, una di usare una violenta quando tu quasi hai paura di toccare la gamba. Guarda, lo stiamo rivedendo adesso, Graziano. Guarda, è evidente che rivedendolo 3-4 volte non è fallo da espulsione, eccetera. Però la gamba, il piede teso sul polpaccio dell'avversario c'è, poi che non lo colpisca in maniera grave, che non affondi in maniera violenta, non c'è dubbio. Ma visto che l'arbitro è mezzo metro, è lì davanti, ce li ha sotto il naso, Un arbitro di quel livello, migliori, sto parlando di arbitri dei 25 fischietti migliori al mondo, se non sanno interpretare quello che può essere un gesto violento da quello che è un normale contatto di gioco, è meglio che stia a casa. Sì, ripeto. Sì, questo non era un pivellino, questo era il terzo mondiale, ha fatto anche l'ultima finale di Coppa Intercontinentale, o come diavolo si chiama adesso, del Milan, vabbè, quella vinta con il Boca Juniors. Però volevo chiederti, Graziano, se hai avuto l'impressione che lui abbia un po' cambiato metro improvvisamente nel secondo tempo, perché nel primo tempo si sono picchiati abbastanza in campo, cioè è stata una partita dura, maschia, dicevamo arbitrata alla sudamericana, poi all'improvviso a mezz'ora dalla fine è spuntato fuori quel cartellino. Sì, io ho avuto questa impressione, un primo tempo in cui ha lasciato andare moltissimo, no? Ha fischiato, sì, ha interrotto il gioco, ma non aveva di provvedimenti disciplinari. Quindi questo è il messaggio che tu dai. Ragazzi, potete anche andare oltre a qualche cosa di regolamentare, però io non intervengo con i cartellini. Poi nel secondo tempo, alta direzione di gara, è come se nell'intervallo fosse arrivato un uccellino e l'avesse detto: guarda che così non va, devi cambiare metodo. Ecco, è chiaro che i giocatori chi usa un metodo diverso da primo e secondo tempo scombussola in qualche modo la mente dei calciatori, perché tu ti abitui a un certo tipo di arbitraggio e poi cambia. Quindi inevitabilmente c'è qualcosa che non funziona. Sì. Scusami Graziano, un'altra cosa che riguarda Suarez, ovviamente quasi impossibile vedere da parte dell'arbitro il morso di Suarez a Chiellini. Però cosa succede adesso? Cioè, mentre nel campionato italiano è evidente, c'è la prova TV e sarebbe stato squalificato fosse stato nel campionato italiano, adesso nella FIFA, in un campionato del mondo, cosa succede? Verrà squalificato? La prova TV si può fare lo stesso. Ci sarà la prova TV? Esattamente, si può fare lo stesso, perché questo è un gesto di condotta violenta, è sfuggito ai direttori di gara. Ti devo dire che voglio anche dare qualche mezza giustificazione all'arbitro centrale, ma l'assistente che stava a fare. Non è facile vedere il morso, dai. Non è facile, ma nemmeno impossibile. No? Era qualcosa di innaturale il gesto che ha fatto. Ragazzi, se non esageriamo, non è che. Cioè, ci sono tante cose da vedere in mezzo all'area. Ma era lì da soli, però, non era una mischia. Ecco, lo so benissimo per esperienza, però i due giocatori erano gli ultimi due più vicini a Buffon. Quindi l'assistente è sulla quella traiettoria. L'assistente guarda lì. Sì. Quindi, e non era una situazione di confusione, erano lì da soli. Avevi due interpreti in una zona del campo dove non c'era nessuno. Quindi l'assistente, anche per la valutazione di eventuale fuorigioco, è lì, è sull'ultimo difendente, non ci sono altri giocatori. Quindi, senti, che percentuale dai sull'eliminazione? Buffon, sentiamo Buffon intanto. Buffon. Come movimento calcistico, per noi come gruppo, per noi come singoli giocatori, è per noi come nazione, no? Perché poi è un giorno di un fallimento, è inutile negarlo, girarci intorno, e per cui come tale ci lascia solo delle sensazioni e delle emozioni di frustrazione. Da dove nasce questo fallimento? Ma non si sa dove possa essere nato, sicuramente. Avevamo cominciato bene questa competizione, ci eravamo fatti magari anche delle aspettative un po' troppo importanti, ho visto la prima vittoria e poi alla fine invece ci siamo dovuti scontrare con la dura realtà, che è stata quella di una squadra che alla fine ha fatto le ultime due gare. Una squadra che non ci ha capito niente. Senza segnare, creando poco. Ecco. E mi sembra che ci siamo finalmente. Meritatamente. Possiamo fare un applauso a Buffon. Lucidissimo. Buffon lucidissimo, che non pronuncia la parola arbitro. Non ha parlato dell'arbitro. La pronuncia. Ma sì, adesso la dirà. Graziano, che ne pensi di Buffon? Grande lucidità, grande maturità, ti devo dire che posso fare i miei complimenti. Io però sono un pochettino più cattivo di rispetto a Buffon, perché la vedo anche in un altro modo. Un 30% ce l'ha sicuramente Buffon, è un 70% l'imputato. Sale naturalmente sul banco dei deputati Cesare Pandelli. Il principale errore che ha fatto, secondo te, qual è stato? C'è un errore condizionante o è stato un insieme di confusione nella gestione, cambi sbagliati? Essere arrivati al mondiale con un certo tipo di gioco, con un certo tipo di squadra, averla cambiata, averla modificata per poi ritornare a un altro tipo di gioco. Credo che questo sia stato l'errore determinante. Non avere forse neanche le idee chiare su chi doveva giocare in attacco. Io ricordo un'intervista di Pandelli che Immobile e Balotelli non potevano giocare insieme, poi in questa partita decisiva sono arrivate le due punte. Ma ha ragione, secondo me è 80% di responsabilità. Io credo che abbia fatto delle scelte molto populiste, torno a ripeterlo, Prandelli, perché non aveva la situazione sotto controllo e alla fine ha fatto giocare in questa partita quelli che la gente voleva vedere. La stampa. No, anche Immobile veniva invocato. L'altro giorno da chi? Tutto Sport, ragazzi, aspetta. Allora, io ringrazio Graziano Cesare. Ciao Graziano. Grazie, un abbraccio. Faccio sentire il traffico, un clamoroso ritardo, poi torniamo. Tutti convocati. Dunque, adesso qui con Giuseppe Cruciani, sta uscendo per telefonare, ma poi torna Giovanni Capuano. Sta chiamando Buffon. Ti do solo un dato: una partita vinta nelle ultime sei al mondiale dopo la finale di Berlino. Sì. Questa è anche un po' la dimensione nostra, attenzione. Edi da Roma, Cristiana da Milano, Davide provincia di Pescara, Marco provincia di Treviso. Chiedo, ringrazio tutti loro che sono stati con noi collegati per un lungo tempo. Edi, buonasera. Salve, sono Edi. Dica. Insomma, uno si sente un po' giù dopo una cosa del genere. Comunque Prandelli dovrebbe andarsene da solo. Lo farà secondo lei? Io penso di no, perché c'ha una faccia che mi piace poco. Non voglio aggiungere altro. Lo accompagneremo alla porta. Forza. Ora abbiamo vinto con l'Inghilterra perché eravamo, diciamo, europei. Ma quando io ho visto giocare con Costa Rica e ho visto come giocavano, molto scorretti ma veloci, e noi eravamo lì a boccheggiare, insomma, dai. E poi stasera, vabbè. Sì, anche se su sta cosa del fatto di correre meno, secondo me si è fatta tanta enfasi, perché poi i numeri dicono un'altra cosa. Sì, ma forse va bene, tutto, ci sta tutto, però... No. Con la Costa Rica abbiamo perso perché è stata preparata malissimo. Guardate, se qualcuno di voi ha letto quello che ha detto il CT della Costa Rica ai suoi giornali, ha detto: ma è stato semplice, loro Balotelli, Pirlo facevano l'elastico, io ne ho messi due, e la partita era incartata. Fine del discorso. Li ha incartati e l'Italia non ha avuto altro che 5 km in meno di corsa e tutte quelle altre menate fatte. Sono tutte fesserie, così come tu vedrai Giovanni, che adesso sulla croce salirà Rodriguez e molti andranno dietro quella croce usandola come paravento, e questo cercheremo di evitarlo e di sconfessarlo, perché non siamo usciti dal mondiale per colpa dell'arbitro. Davide, provincia di Pescara. Buonasera. Allora, un saluto a tutti e lancio una cosa per Cruciani. Sì. I nostri giocatori erano spompati perché abbiamo portato le mogli. Abbiamo portato le mogli al mondiale, questo è il risultato. Persone che non camminavano, la Russia, anche gli altri. Ne ha portate anche gli altri, ma poi sa lì se non gliele portano, poi magari si perdono in altre cose, sono spompati lo stesso. No. I giocatori che non camminavano se uno disgustato e niente, che bisogna dire, è giusto che siamo usciti. Eh beh, certo che siamo giusto. Ci mancherebbe anche passare il turno con 3 punti e 2 sconfitte in questo girone. Non è che c'è un'alternativa a questa analisi, è giusto e sacrosanto che siamo usciti. Comunque, tanto per dire, del mito dei metri percorsi, che sono il nuovo indice per giudicare se una squadra ha fatto bene o no una prestazione. Questa sera noi abbiamo corso più dell'Uruguay, sì. L'Uruguay ha vinto, io... 106 km spicci per l'Italia, 104 per l'Uruguay. Pensa che l'Uruguay ha corso stasera meno di quanto l'Italia ha corso con la Costa Rica, e noi ci siamo fatti un capoccione così a raccontare che avevamo perso perché non eravamo mobili in campo. Certo, eccolo qua che è tornato Cruciani. Sei al telefono, ti chiedono delle mogli dei giocatori. No, che c'entra? No, no, perché erano spompati perché italiani. Ha portato no, le mogli. No, che c'entrano le mogli dei genitori? Sto con un mio amico con cui giochiamo sempre scommesse. Che cosa sta dicendo? No, è avvelenato con Prandelli, è chiaro, è avvelenato con Prandelli sull'immaturità dei giocatori italiani, l'immaturità soprattutto dei nuovi giocatori italiani, come ha detto Buffon, cioè l'immaturità, diciamo, dei nuovi innesti, perché i vecchi non è che abbiano giocato male, no? Diciamo, no, mi sembra sia stato il mondiale di Buffon, di Pirlo, mi sta suggerendo, una cosa, porta Totti. Ma certo, ma tutta la vita, Però qui risaliamo a monte, allora porta Giuseppe Rossi come ha fatto l'Uruguay con Suarez. Aspetta, mi sta dicendo cosa ha scommesso, cosa hai scommesso tu? Primo tempo X, secondo tempo Uruguay, questo l'hai allora preso. Poi, bene. Poi però hai scommesso sulla vittoria dell'Inghilterra. Sì o no? Ma di che hai stiamo sbagliato parlando? Vabbè, sì o no? Vabbè, comunque, cosa ha fatto l'Inghilterra? 0-0. L'Inghilterra ha fatto 0-0 e torna a casa con un punto. Salgo vabbè, chiudo con il mio amico. Ciao ragazzi. Sì. Ciao. Finito il paragone con tuo amico, ho capito. Sì. Alessandro, Luca, no, Marco, provincia di Treviso, prima. Marco, buonasera. Sì, ciao. Senti, secondo me avete dato tutte le analisi che state facendo, sono tutte sbagliate. Noi abbiamo perso perché c'era Blatter in tribuna. Ragazzi, però mi stanno qualcuno sta twittando l'intervista di Prandelli il giorno prima di vai. Partiamo per arrivare in finale, doppia paginata, Cassano, Rossi, destro, Immobile, nessuno esclude nessuno, Balotelli lo voglio in area di rigore, poi sarebbe bello vedere i dati di Balotelli in queste 3 partite in area di rigore. Partiamo per arrivare in finale, questa è la famosa intervista, siamo intorno al 20 maggio. Beh, giusto. Sì. Che doveva dire? Gazzetta dello Sport. Sì, vabbè, è chiaro. Quella in cui ha detto che avrebbe giocato con il 4-3-1-2. Le dichiarazioni di intenti ci stanno tutte. 2-1. Le dichiarazioni di intenti ha fatto bene a dichiarare quello. Il problema è che poi ha lavorato estremamente male. Facciamo un toto scommesse. Un toto. Ma magari morto. Marco, ma giornale, finire, quante giornate di squalifica? Marco, aspetta un attimo. Marco, dica. No, secondo me stanno sbagliando tutte le analisi. Ok, cioè... no, questa l'avevamo già sentita. Colpa di Blatter e basta. No, meritatamente, scendiamo a casa che forse è meglio, cioè appunto non c'è possibilità. Sì, no, questa è non. Mi sembra inutile anche discuterlo, no? Che sia giusto che si salga su quell'aereo domani 17:45. Dicevi, Giuseppe? Quindi a che ora arriva? Perché vorremmo chiedere anche agli amici di Roma se hanno intenzione di andare ad accogliere pomodori. La nazionale. No, io non so, coi pomodori, ognuno va e fa quello che vuole. Passeranno inosservati, dai. Sì, passeranno, non credo. Passeranno. Non è più tempo di pomodori. No, passeranno. Ci sarà qualche fischio, qualche parola sconveniente. Ragazzi, la realtà è questa: tra Costa Rica e Uruguay abbiamo fatto 2 tiri in porta. Tra Costa Rica e Uruguay abbiamo fatto 2 tiri in porta di Balotelli. È quello che ti sto a dire. E adesso qualcuno ancora parliamo dell'arbitro. Dai, è quello che ti sto a dire. Borsa. L'obiettivo è passare il primo turno, perché penso che sia l'obiettivo primario. Poi, passato il primo turno, io sono convinto che possiamo pensare e possiamo organizzare la spedizione per poter arrivare in finale. L'errore che abbiamo commesso gli europei è quello di non aver pensato in maniera organizzata alla finale, ma pensavamo partita dopo partita, ed è stato un grande errore che una squadra di calcio che ha un'idea di dove può arrivare non può commettere. Questo era Prandelli del 7 di maggio, quindi la pensavamo partita dopo partita, qui invece abbiamo fatto un bel piano e un bel programma, partita dopo partita, un minuto dopo l'altro, della spedizione. Auguri. Dario Ricci, torniamo in Brasile. Eccoci qua nella pancia del stadio del Dunas, qui a Natal, dopo un minuto all'amico e collega Paolo Tommaselli del Corriere della Sera. Allora Paolo, abbiamo ritrovato un Moreno, però non ci aspettavamo neppure un'Italia e un Prandelli così. E perché di questa eliminazione? Ah, l'Italia non ha fatto praticamente nulla per in fase d'attacco, veramente deludenti, sia Immobile che soprattutto Balotelli. Prandelli, secondo me la formazione di oggi era anche, aveva anche un senso, l'Italia stava anche portando la partita forse dove preferiva. L'espulsione ha rovinato tutto, ha rovinato gli equilibri fragili di una cristalleria che aspettava solo di crollare. Rimane Prandelli a questo punto, visto questo mondiale, visto come è stato gestito il gruppo e visto anche le fratture, le crepe che in questo gruppo inevitabilmente si saranno aperte, è il caso di arrivare a questi europei di Francia, cui dobbiamo ancora qualificarci tra l'altro, con questo tecnico, con Prandelli, oppure? Io sono per una conferma di Prandelli, che mi sembra che possa lavorare bene, che sappia dare un senso anche d'appartenenza a questa squadra. Mi preoccupa di più il materiale che lui ha in mano, sinceramente, perché dopo, a casa non è rimasto nessun fenomeno, a parte di Fortuna, a parte Giuseppe Rossi, che non era in condizione, non è stato ritenuto in condizione. Per cui io adesso le colpe a Prandelli le dividerei con certi giocatori. Bene ha fatto Capitan Buffon ad aver subito una svegliata a certi giovani, perché il tempo passa per tutti, certi giovani si troveranno vecchi senza aver mai inciso in maniera importante in questa nazionale. Ha chiuso Balotelli con l'azzurro dopo questa controprestazione. Il problema è che la concorrenza non è così spietata, per cui se lasciamo a casa Balotelli poi dobbiamo fare i conti con chi c'è. Non credo che abbia chiuso con l'azzurro, però non c'è la possibilità di vedere di vedere il famoso talento che noi gli riconosciamo per più di una partita, per più di qualche sprazzo. Veramente disarmante anche l'atteggiamento, proprio il linguaggio del corpo che ha questo giocatore in campo in certe partite, è indisponente. Va bene, grazie Dario. Tra l'altro, sì. Grazie a voi, tra l'altro ha fatto bene Paolo a ricordare le parole di Gianluigi Cupone, sì, che è stato eletto man of the match e che ha detto, dice chiaramente, amarezza di ricevere questo premio in una giornata così. Serve ora un esame di coscienza per tutti e quindi cominciano Dario, se trovi ancora qualcuno lì, io direi che hai introdotto il tema che poi sarà quello dei prossimi giorni, cioè Prandelli resta o non resta. Io non sono d'accordo con Tomaselli, credo che qualsiasi allenatore della nazionale italiana di calcio dopo un mondiale, dopo l'eliminazione da un mondiale, per qualsiasi ragione sia avvenuta questa eliminazione, si debba dimettere. E per cui io credo, in questo caso ha maggior ragione perché per la gestione complessiva peggio non poteva essere. Se è il caso e se riesci magari il contributo di qualche altro osservatore lì da Rubo una battuta a un amico che la conosce bene, la nazionale, Marco Nosotti, perché l'ha raccontata da tanto tempo e anche in questo mondiale di Sky. Marco, dibattito aperto, Prandelli resta o non resta? Deve restare o non deve restare? Per me ha un contratto, deve restare. Così però è un po' brutto, insomma, no, nel senso sì, il contratto. Anche non se non ha un contratto. Per me deve finire il suo mandato, diciamo così, il suo percorso. Non vorrei darle colpa a tutte, lui si prenderà tutte le responsabilità, anche perché 11 contro 11 abbiamo fatto poco. Abbiamo veramente fatto poco, c'è da interrogarsi sul ricambio generazionale davvero. Io però dobbiamo ripartire e allora è questo il momento per rifare tutto, ma io credo che quel lavoro che è stato fatto fino agli europei si possa vedere, perché secondo me gli europei si può vincere. Sembra che ha perso però le redini di questo gruppo, il caso Balotelli è stato clamoroso, fallire la partita più importante. Eccolo, Super Mario passa adesso cuffie in testa, chiaramente ignora. È davvero leader, davvero leader. Eccolo qua, diciamo, davvero leader. Di questa squadra, cappellino e cuffie in testa, ormai si sta allontanando, inseguito da tutti. Adesso diamo un'occhiata a Twitter, che magari invece arriva qualche carattere buttato lì. Parlare no, affrontare. Buffon è andato giù duro, il riferimento in tanti l'hanno letto su Balotelli, ha detto ci sono quelli che parlano, sembra che debbano fare e poi non fanno mai, a differenza di tanti vecchi. È andato via, è andato via senza fermarsi, inseguito da 9 decine di giornalisti. Non ci avrei scommesso una lira. Semplicemente fare una domanda, anche questa volta senza risfortunati. Ritentiamo fra 4 anni. Mi sembra che abbiamo sentito Paolo Tomaselli del Corriere della Sera e poi Nosotti. Marco Nosotti di Sky. Entrambi dicono che Prandelli, Nosotti addirittura dice che siccome ha il contratto, e anche per altri motivi ovviamente, il contratto in questi casi non c'entra assolutamente nulla. Anche perché è un contratto arrivato in condizioni particolari. Lui era d'accordo per andarsene, a un certo punto l'aveva detto chiaramente. Poi aveva in mente il progetto quadriennale per rifare anche tutto il settore delle nazionali. Poi gli è rimasto in tasca un biennale che è stato giustificato perché Abete scadre nel 2016, ammesso che ci arrivi a questo punto, e non poteva impegnarsi oltre. Insomma, anche quella è stata una vicenda non bellissima. Io credo diciamo che il presidente del CONI, che è entrato giù duro spesso sulla gestione della Federazione Italiana Gioco Calcio negli ultimi mesi, cioè da quando è in carica, debba prendere in mano la situazione. E credo che Malagò abbia il carisma. Credo che Malagò abbia il carisma e abbia la possibilità, sfruttando, se vogliamo, anche questo flop mondiale, per prendere in mano la situazione e avviare una rifondazione manageriale della federazione. Sì, ma era già stata fatta l'altra volta la rivoluzione manageriale, ti ricordi? È arrivata Sacchi, settore giovanile. Intanto vi segnalo che Sacchi non sarà più il coordinatore delle giovanili della nazionale. E lì invece il lavoro ottimo è stato fatto. A me piacciono i numeri, lo sai. Posso darti un altro numero? Sul secondo biennio di Prandelli, cioè dopo la finale di Kiev con l'Europeo, la nazionale ha giocato 28 partite. Sapete quante ne ha vinte l'Italia di queste 28? Amichevoli comprese? 9. No, 9 su 28. Questa è la foto del secondo biennio di Prandelli. Questa squadra è la conclusione di quel percorso. È tornato Pierluigi Pardo per un saluto finale. Ciao, Pier, come caro Pier. Che vada. Ma che fai? Tu resti o riparti? Ma credo di restare, però ufficializzeranno a breve, quindi domani vi dico tutto. Mi sono venute una serie di considerazioni, non so se l'avrete fatta, insomma, alla fine abbiamo scelto questa coppia d'attacco, Balotelli Immobile, fra le varie negative che abbiamo illustrato nei giorni scorsi, la principale era una difficoltà eventualmente per cambi in corsa, se la partita si fosse messa male. È vero che hanno segnato l'82esimo, ci mancherebbe altro, però ci è mancato l'attaccante fresco da far entrare. E poi il resto, dai, la partita molto condizionata secondo me dall'episodio arbitrale, senza campare alibi, però le tre partite sono state deludenti, a parte la prima, insomma, la seconda e la terza partita avremmo fatto due partite, avremmo fatto tre tiri in porta, non va bene. Ma è quello che dico Pier, cioè non puoi dire colpa di questo che ha fischiato contro, eccetera, perché è un altro alibi che trovi, come non puoi dire faceva troppo caldo l'altro giorno con Costa Rica, perché tutte le volte è così. Cioè ho visto una squadra, a parte che sono convinto del fatto che l'Italia abbia giocato un buon primo tempo, perché secondo me ha giocato un buon primo tempo contenendo la partita, l'Uruguay mai pericoloso. Nel secondo tempo continuo a pensare che quel cambio sia stato sbagliato. Poi è venuto l'episodio arbitrale, poi il morso di Suarez, poi il corner e poi il gol. Però continuo a pensare che il peccato originale è stato quello, perché il messaggio che ha trasmesso alla squadra e all'Uruguay è stato questo il nostro commissario tecnico. Sì, però poi poteva comunque, magari avrebbe messo una condizione normale, avrebbe comunque messo Cassano e tolto a quel punto, non Immobile, ma tolto un centrocampista. Cioè io onestamente, io quello che non ho visto è stato un calo della squadra all'inizio, cioè, poi ho visto una partita normale, nella quale fino all'espulsione non abbiamo concesso praticamente nulla all'Uruguay, e poi alla fine abbiamo preso sul calcio d'angolo. Cioè mi sembra però la gestione invece complessiva di Prandelli di queste tre partite mi sembra abbastanza incredibile. Ha alternato 57 moduli diversi, secondo me il modulo migliore non si è mai visto, mediamente, che è quello di una prima punta e una seconda punta, 3-5-2 sanissimo, sereno, la ripresa 3 stasera andrà sicuramente meglio. Insomma, mi rode, penso che ci roda tutti, no? Sì, no, io voglio anche dire non credo che questa nazionale sia così scarsa come adesso tutti scrivono e dicono. Assolutamente. Qual è il clima lì su Prandelli resta o no? Perché insomma, il dibattito delle prossime ore, caro Pier, che ti coinvolgerà inevitabilmente anche questo, Sì, guarda, io sto entrando adesso nel settore stampa, perché appunto ho fatto 15-5-24, quindi per ora vi posso raccontare le feste dei tifosi dell'Uruguay, giustamente la bellezza, poi fammi fare 25 secondi di retorica, insomma, vivere queste avventure, queste manifestazioni, io ho la fortuna di girare, è una cosa meravigliosa, perché poi c'è sempre un lato B, poi c'è sempre comunque chi festeggia, ci sono dei paesi che stasera fanno baldoni, è chiaro che ci piace di più quando diciamo noi, però insomma la bellezza del calcio, la magia irrazionale di questo gioco viene fuori, i colori sono bellissimi, sono partite senza violenza, sono partite proprio belle, quindi scriva fuori, è fantastico. Per tornare alla tua domanda, io posso dirti che quello che sentivo dire in caso di sconfitta molto complicata è che nulla si poteva escludere, sia dal punto di vista federale che dal punto di vista di direzione tecnica. Poi adesso non so questa sconfitta come verrà considerata dalla stampa, perché sai, volendo l'alibi c'è. Sì, no, però lo dicevamo anche prima. Sì, Rodriguez è il miglior alleato di Prandelli. Cioè, sì, Rodriguez, sì, Rodriguez Moreno. Rodriguez Moreno è il miglior alleato di Prandelli, però io credo che lo stesso Prandelli non guarderà al contratto. No. Non guarderà al contratto, anche perché insomma, non ci sono più panchine libere, perché altrimenti Prandelli avrebbe preso il volo. Piera, confortami a gennaio. Alla fine il contratto, cioè, non guardi io, allora io va bene, ma un contratto si può anche stracciare, insomma, se tu porti a casa un risultato di questo genere da una spedizione, tra l'altro che non è costata 2 lire, perché tutta la cosa insieme fa 4.700.000 euro, e non è solo il ritiro a 5 stelle, la casetta di Manaus, la tecnologia, e tutto il resto, tutto fatto su richiesta di Prandelli, insomma, vogliamo prenderci le responsabilità poi se il risultato non è all'altezza? Sì, ma soprattutto io guarderei più in generale l'ultimo anno di Prandelli, che è stato pessimo, perché non ha costruito niente. Una vittoria in 10 partite. Non ha costruito, ma al di là delle vittorie, non ha costruito niente. No, ma i numeri contano, Una vittoria in 10 partite. Insomma, noi andiamo oggi visibilissimi i primi 2 anni e mezzo di Prandelli, ottimi, con la finale dell'Europeo e anche con una brillante qualificazione al mondiale in anticipo, e poi da quel maledetto Italia-Armenia che ci ha impedito di essere testa di serie abbiamo un fallimento. Bisogna chiamare le cose col loro nome, e ribadisco, la cosa più inquietante secondo me di Prandelli qui è stata l'assoluta mancanza di idee chiare. Siamo tutti lì a dire e domani tutti insieme, io chiedo scusa ad Anastasia da Roma, Alessandro da Lucca, Anna da Torino, Graziana dalla provincia di Torino, con tutto il cuore, non abbiamo più tempo, ma domani dalle 2 alle 4 io sarei onorato di avervi con noi tutti convocati. Grazie a Giuseppe Cruciani, ci vediamo presto, Giovanni Capuano, grazie. Pirlo chiude, 112 partite in nazionale, Pirlo ha chiuso chiude. Oggi va bene, storie finiscono. Ciao Pier, ciao, abbracci. Ciao Franco Piantini, ciao. Autore di questo programma, Valeria Bernardi in regia, ciao a tutti, domani tutti convocati alle 14. L'arbitro manda tutti sotto la doccia, passa l'Uruguay, veniamo eliminati. È un tristissimo finale di questo mondiale, perdiamo 1-0, gol di Godin. Però insomma, Beppe. No, molto triste assolutamente uscire in questa maniera. Infatti i nostri stanno andando un po' a reclamare verso l'arbitro.